Ascolta, secondo me voi avete fatto gli studi, ma sono soldi buttati via. Sono stati soldi sprecati. Io, se ero i vostri genitori, ve li richiedevo indietro. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Sei ancora a casa, Simo? Siamo qui, la zanzara, 18 e 10, caro Parenzo, 800 24 0024. Buonasera a lei, buonasera al dottor Squinti. Aspetta, devo finire, fammi presentare la trasmissione, già mi dai sulla voce. Di Pietro si candida a premier, senti. Ci proponiamo direttamente a governare questo paese, insieme a quelle forze politiche che ci stanno. Se ci vogliono stare anche i vari Bersani e compagnia bella, credo che debbano passare dalle parole ai fatti. Bersani con Di Pietro, problema serissimo. Si è creato un problema serissimo, e stavolta facciamo sul serio, e che non è presentabile agli italiani una coalizione che fa finta di stare assieme insultandosi. Questo non esiste. Beh, se uno proprio volesse entrare nel merito, anche Vendola con Monti sostenuto dal Partito Democratico, non è che ci va leggero, eh? Comunque, vabbè, lasciamo perdere. Contraddizioni evidenti. Francesco Boccia, Partito Democratico, Di Pietro per noi è fuori, ma lui lo diceva già da mesi, se non da anni addirittura. Dunque gongola, gode l'amico Boccia, gode. Bravo Boccia. Sempre a leccare tu. Fuori, Bersani è stato chiaro. Di Pietro da tempo ha scelto l'attacco alle istituzioni, il modo di concepire la politica che è più eversiva che istituzionale. Senti questa cosa da ridere, Alfano, premo perché Berlusconi si candidi. Ma come premi perché Berlusconi si candidi? C'è una forte, significativa e reiterata insistenza di tanti di noi, me in testa, affinché lui si candidi nuovamente guidando le nostre liste e immaginando una nuova stagione di premiership per Silvio Berlusconi. Immaginando una nuova stagione di premiership per Berlusconi, questa è l'idea di Alfano. Ma non era lui prima il leader e candidato, invece adesso può poverino. Adesso immagina una nuova stagione di premiership per l'altro. È costretto a dire pure questo. Vabbè, Alfano, cambiamo nome, ma non i valori. Dunque ha sepolto il PDL, eh? Non escludiamo di rinnovare la nostra presenza dal punto di vista del simbolo e del nome, anche se non l'abbiamo ancora deciso definitivamente, e crediamo che questo possa rappresentare un messaggio innovativo per una fase nuova, senza abbandonare né i nostri valori né la nostra ricetta liberale, che voglio ribadire essere meno tasse finanziate con meno debito e meno sprechi. Peccato che fosse la stessa ricetta del 94, mai applicata seriamente, mai applicata seriamente, mai applicata seriamente, mai applicata seriamente, mai. Mai. È impazzito sul Cruciani. No, non sono impazzito, bisogna ribadire certe cose. La nostra ricetta è quella liberale, a parte che bisogna vedere qual è la ricetta liberale, perché qui di liberali nel PDL però non è che ce ne sia una bizzeffa. Meno tasse con meno spese pubbliche. Peccato che durante i governi Berlusconi le tasse siano aumentate e pure il debito pubblico. Bah. Dal 94. Però magari, no? Magari adesso c'è un rinsavimento generale. Sì, un rinsavimento totale. Sì, bisogna avere fiducia in questa classe dirigente che ci ha dato al manatro. Fiducia bisogna avere, fiducia. È tornato Scilipoti, eh? I terremoti si possono prevedere, senti. Ma dai, con l'estate anche Scilipoti può tornare, un colpo di torno. Cari amiche e cari amici, in occasione del convegno da me organizzato verso una rivoluzione energetica non inquinante è emersa la possibilità di prevedere i terremoti. Le emissioni di neutroni sono sicuramente un precursore sismico assieme a quelli già noti. le emissioni acustiche ed elettromagnetiche. È urgente che lo Stato finanzi questa ricerca, poiché se quanto asserito dovesse corrispondere a verità, si potrebbe parlare di rivoluzione copernicana a tutti gli effetti. Poi adesso voglio parlare un po' per fatto personale, no? Perché c'è un assessore al Comune di Milano che si chiama Tabacci, Bruno Tabacci. Bravo. Esatto. Brava persona Bruno Tabacci. Non lo so se sia una brava persona, non mi interessa. Bruno Tabacci, ex UDC, ex API, è uscito dall'API, non so dove sia. Sì, ma non so dove sia, non mi interessa. Il quale Tabacci è assessore al Comune di Milano, ma è rimasto anche deputato. Sì. Lo sappiamo, no? Per carità. Allora, il problema è questo: una volta venne da noi qui e ci siamo solamente permessi di fare questa domanda. Scusi, ma non c'è incompatibilità tra fare l'assessore al bilancio del Comune di Milano e il deputato? Lui se l'è presa per questa domanda. Per noi c'è incompatibilità, insomma, facciamo domande come facciamo sempre. Da quel momento in poi non vuole più intervenire la Zanzara per il semplice motivo che abbiamo fatto questa domanda, quella sull'incompatibilità della carica tra assessore al Comune di Milano, non è un'incompatibilità formale, e quella di deputato, cioè non è assessore al Comune di Valguarnera Caro Pepe, provincia di Enna, no, è assessore al bilancio al Comune di Milano. Signor Tabacci, qualche giorno fa è intervenuto in onda con Facci, per non intervenire alla Zanzara è un diritto, per carità. Naturalmente, però, quando uno dice non intervengo perché l'altra volta mi avete fatto quella domanda, è un po' curiosa la cosa. Sentite come risponde a Facci sulla questione delle poltrone. Io penso che ci sia da imparare. La stessa domanda lei la rivolge a Vespa, a Baudo, come o no? La rivolge a Berlusconi? Guarda, se verranno, no, perché giuro in diretta che gliela rivolgo. Che il problema è quello di come funziona il cervello, soprattutto se uno amministrando è in grado di farlo avendo un certo distacco dai suoi interessi personali. Perché secondo lei esiste qualcuno al mondo che dice il mio cervello non va più bene? Giudicheranno gli elettori. Comunque, guardi, tanto per essere molto sereno, non sono molto attaccato alla poltrona, quindi... Beh, cari amici, non sono molto attaccato alla poltrona. E allora, caro Tabacci, decida. Non arrivi alla fine della legislatura, no. Si dimetta da uno dei due posti, o l'assessore o il deputato. Anzi, si dimetta da deputato, tanto che vuole continuare a fare l'assessore. Non dica di non essere attaccato alla poltrona. Si prevede una serata di grandi battaglie qui alla Zanzara, caro Parenzo. Parenzo che è in collegamento da non so dove, credo da Padova, da Siago. No, diamo notizie non false, per cortesia. Sì, dimmi. Sono in collegamento da un'autovettura. Sì. Da un'autovettura. Sì. Adesso per motivi di Zanzara mi fermo in un luogo sarebbe cosa buona e giusta, naturalmente. La località di Marostica. Di Marostica. Quindi dico agli amici che mi ascoltano, che siamo tutti a Marostica, amici della TAV anche. Sì. Amici anche quelli contrari alla TAV, siamo a Marostica. Sei a Marostica, benissimo. Con anziani e bambini a bordo. Ecco, ci siamo capiti. Stai obbligando, voglio dire a squinti, la competenza... sta obbligando l'intera carovana di macchine a fermarsi per un'ora nella località di Marostica per poter proseguire il collegamento in modo pacato. Ma io non ero informato però su questi spostamenti, ti dico solo questo. Comunque lasciamo perdere. Nella località di Marostica, Zanzara è venuta fin qui per raccontare questa meraviglia d'Italia. Ecco, benissimo. Allora, sentiamo l'intervento dell'europarlamentare del Partito della Libertà, del Popolo della Libertà, la signorina Comi. In onda sempre. Sì, dice che i matrimoni e le unioni gay non sono un problema da affrontare. Sentiamo. Abbiamo una regola, facciamo delle domande e si deve rispondere a quelle domande. Infatti, l'ho già detto, in Europa ci sono i matrimoni per omosessuali e poi ci sono le unioni civili. C'è una sola nazione dove non ci sono. E quindi ci sono dei diritti negati e io ho fatto degli esempi. Lei che cosa ne pensa? Io le penso che su questo, come l'ho ribadito, in Italia non esiste questo problema. Cioè noi non lo consideriamo come un problema questo. Elefante gay, Beh, cara signorina Comi, il problema esiste e come se esiste. Non è un problema da affrontare. Sentiamo ancora, la famiglia è per fare i figli. Secondo me la famiglia è composta da uomo, donna, e che da quello vengono a creare dei figli e delle generazioni future. Quindi c'è una prospettiva anche futura. Buttiglione, volete toglierci il diritto del matrimonio? Hanno il diritto di avere delle garanzie per la loro convivenza. Sì, attenti però che questo non diventi un simil matrimonio che poi finisce con lo svuotare il matrimonio. E come si fa a evitare questo? Perché il rischio è di svuotare il matrimonio, tenendo chiaramente distinto l'ambito di questi diritti dall'ambito dei diritti costituzionalmente. Perché le vuole togliere a qualcuno? Non toglio, quelli che siete sono voi già che volete toglierci il diritto di avere il a matrimonio. A me non si toglie nessun diritto. Siete voi se che volete distruggere il matrimonio. Siete voi che volete i matrimoni gay, che ci volete distruggere, che volete distruggere il matrimonio così come è concepito. Professore. Ma tu lo sai di chi è la canzone che ti sto per mandare in onda, l'inno di partito che ti sto per mandare in onda? Indovinalo, indovinatelo, no, se siete capaci, indovinatelo, sentiamo. Di Davide il Vichingo. Indovinato? Dell'UDC? No. Non è male però, Ma come non è male? No, non è male. Crediamo in un futuro cristiano. Ma non è male, dai, non è malaccio. Ah, forse ho capito. Forse è l'inno dei templari sociali, come si chiamano? No, templari sociali? Che ci può essere un movimento che si chiama i templari sociali, secondo te? Non lo so, possono essere i cristiano sociali, come si chiama? No, cristiano... quelli erano altri cristiani. Chiedo scusa erano perché... altri. A popolo, rimettimi un attimo come scrivere le parole che magari aspetta rimettimi un attimo. I cristiano riformisti, qui c'è il loro leader Antonio Mazzocchi, buonasera. Buonasera, la ringrazio di aver fatto pubblicità al nostro inno, grazie alla Zanzara. Beh sì, però, pubblicità, non so se abbiamo fatto una pubblicità Cruciani, positiva, adesso, però. Scusami, dimmi. Scusami, negativo e positivo è sempre pubblicità. È sempre pubblicità. Perché devi dire subito il leader dei cristiano riformisti? Ma di che cosa stai parlando? Ma di che parli? Beh, c'è un movimento all'interno del PDL che si chiama cristiano riformisti. Perché fai così con la gente? Perché? Con la gente con chi? Scusa. Perché fai così col c'è un deputato che è il leader di questo movimento. È molto simpatico, gli voglio anche bene. Ma perché devi dire il leader del movimento? Ma di cosa stiamo parlando? Del PSE, del PPE? Di cosa stiamo parlando? Dei cristiano riformisti all'interno del PDL. Aspetta, qual è il problema? Margherita, conosci i cristiano riformisti tu? No, ma perché piangi? No, ci sono riformisti, amore. No. Adesso, non sfruttare tua figlia per questi scopi biechi di propaganda. No, c'è solo Berlusconi. Dammi un bacino, amore. Vabbè. Si arrabbia, hai capito? Beh, hai no, capito non ho capito. Fatto? Ma lo sai hai che capito? Ai cristiano riformisti andò Berlusconi, doveva andare Berlusconi qualche giorno fa, poi andò Alfano, ti ricordi quando si disse che Berlusconi stava male, eccetera, eccetera, quando doveva annunciare proprio lì la sua candidatura. È vero Mazzocchi? Sì. Doveva venire e poi non è venuto. Non è venuto. Senta, ma lei, insomma, io credo che sui matrimoni gay abbia un'idea molto chiara, non sanno da fare, no? Ma se lei, questo è inutile, no, guardi, è inutile dirlo. No, guardi, se lei mi consenta, anzitutto io sono d'accordo con il mio interlocutore, che non so come si chiama, io non sono un leader. Signor sono Parenzo. Io sono d'accordo con lui, io non sono il leader. Io sono il presidente di un'associazione, di un movimento che si chiama Cristiano Riformista, sì. I leader sono altri. Sì, vabbè. Movimento è sempre, ha sempre un leader, un movimento, no? ha sempre una punta, no? Come una nel calcio, punta, una punta. Noi non a caso siamo riformisti, perché faccio in un esempio, io sono rispettosissimo di qualsiasi scelta sessuale, qualsiasi persona, perché la dignità della persona deve essere sempre rispettata. Vabbè, questo è sempre la premessa che qualsiasi omofobo fa, non voglio dire che lei è omofobo, però io quando si parla di matrimoni gay, io dico soltanto che esiste l'articolo 20, dall'articolo 29 all'articolo 31 della nostra Costituzione. Lei sa chi fece l'articolo 31? Ma che ne so, non lo so. Io lo dico subito, Palmiro Togliatti, che scrisse, volle che si scrisse che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata. Sì, ma non c'è scritto che la famiglia deve essere tra uomo e donna, lei lo sa. No, se poi lei legge l'articolo 30 e 31 si accorgerà subito che è il discorso che si parla chiaramente. Vabbè, sono vietati dalla Costituzione. Non è che sono vietati. Secondo cioè, lei, secondo lei. Guardi, forse non mi spiego. Se la Costituzione si modifica, si può anche fare il matrimonio gay. E questo non. Io lo so, l'ho detto alla Comunità. Lei la pensa come la Bindi, uguale? Prego? La pensa come la Bindi? Chiaro, cioè, io non so se la Bindi parla. No, così, dice però, che bisogna cambiare la Costituzione. Credo che bisogna cambiare la Costituzione. Ma lei non vuole nemmeno le unioni gay, però. Non vuole nemmeno una legge specifica per cui. Cioè, lei. Che cosa intende per unioni? Una legge che prevede che davanti a un signore che è il sindaco, che è un funzionario civile, vanno due, uomo, uomo, donna, donna, esatto, e si dichiarano marito e moglie. Lei questo qua non lo vuole. Ma questa che cosa è? Una premessa per un matrimonio gay? Perché per quale motivo deve No, un'unione gay, per un'unione. No, lasciamo per. Questa unione gay, per quale motivo si fa? Lei se me lo spiega, perché due persone si amano, hanno, vogliono vivere insieme e vogliono avere qualche diritto e qualche dovere. Si amano e vogliono vivere insieme, hanno determinati diritti previsti dal codice civile, per cui non riesco a capire. Beh, alcuni non ce l'hanno, alcuni no, non ce l'hanno. No, è vero. No, no, è chiaro, perché lei deve sapere che molti gay inizialmente erano eterosessuali, poi sono diventati per loro scelta omosessuali. Ma che vuol dire? Sono sposati e hanno avuto dei figli. E allora? E allora bisogna garantire. Ecco perché le dico deve essere modificata la Costituzione e modificata. No, ma lasci perdere quelli che si erano sposati. Guardi che il legislatore deve guardare la generalità. E poi come fa a sapere che molti gay sono diventati gay e prima erano eterosessuali e si sono sposati? Scusa. Io sono amico di molti gay, non è di molti gay che non è perché con gli ho detto io rispetto benissimo il gay. No, ma io voglio dire di più. Sì. Se lei parla con i gay, ma i gay non che fanno il gay pride, pride. I gay che hanno fatto una scelta sessuale direi con cognizione, sì. Ecco, nessuno vuole il matrimonio gay. Vogliono e che vogliono? Vogliono soltanto amarsi, stare nelle loro case, non essere disturbati, combattere col discorso contro l'omofobia. Sì. Su questo siamo tutti d'accordo. Che vuol dire non essere disturbati? E disturbare, perché spesso e volentieri nelle città, come lei vede, ci sono degli esempi da condannare. Che se vedono due persone gay, casomai qualche pazzo li offende o casomai li picchia. Però scusi, Mazzocchi, io voglio chiedere una cosa. Scusi. No, ma ho capito benissimo. Però non capisco dove. Perché lei dice tutti i gay, la maggior parte dei gay prima erano eterosessuali. Ma come fa a dire? No, lei non. Io ho detto ci sono alcuni gay. No, molti che lei ha detto, la maggior parte dei gay. No, l'ho detto. Come non l'ha detto? L'ha detto benissimo. Allora, se l'ho detto, correggo. Se lei mi dice che l'ho detto, correggo. No, ma scusi, non ho capito poi questo qua. Perché dovrebbe essere un impedimento al matrimonio il fatto che prima erano eterosessuali? Scusi. No, ma nessuno impedisce. Forse lei non riesca a spiegarmi. Guardi, io faccio pure l'avvocato, per cui le voglio dire. Ci sono determinati diritti previsti per i figli, sia se lei è gay, sia se non gay. Per cui se noi dovessimo modificare la Costituzione e accettare poi il matrimonio gay, ci sarebbe anche, secondo legge, vedere un po' come garantire anche questi. E vabbè, ma quello è un problema che si può risolvere. Come lei sa, nello stesso momento in cui si sposa, alcuni diritti vanno direttamente sul coniuge. Faccio un esempio, la metà della vabbè, ho capito, ma questi sono problemi tecnici, Mazzocchi, no, che si risolvono. Fondamentali, perché io le dico di più. Nel ma lei, se vede due gay che si baciano, che effetto le fa? Nulla, due uomini, guardi, due uomini che si abbacciano, si baciano con la lingua per strada, con la lingua per strada. Guardi, io se vedo due eterosessuali. Ma no, froci, voglio sapere, froci, no, omosessuali. Guardi, questa parola volgare io non ma che volgare? Non è affatto volgare. Io sono fieramente a favore del matrimonio omosessuale e li chiamo froci. So frocio, embe, perché c'è da ridì? Non vedo che problema c'è, mettiamola così. So frocio, embe, e che ce posso fa? Sono libero di scegliere, ce l'ho sta facoltà. Oppure eccoci qui, 18:32, 800 24 0024. Beh, caro Parenzo, come lotta l'onorevole Mazzocchi, lotta come un leone, deputato del PDL. No, lotta come un cristiano riformista, perché no, come un leone. Come un leone, onorevole Mazzocchi. Posso dirle una cosa? Sì. Lo sa perché Froce è offensivo? Non è offensivo, perché, Froce. Però le spiego, mi scusi. Mi dica. Io sono un po' uno storico. Lei deve sapere che quando i Lanzichenetti fecero il sacco Lanzichenecchi. Di uomini... Fece il sacco di uomini nel 1527, stupravano uomini e donne. Sì. Ed erano così... la prima era feroci, si chiamavano, poi froci. E allora è diventato offensiva, perché... questa è una parola di violenza e per cui per me froce è una è però onorevole Mazzocchi, ho avuto il via libera da questo punto di vista con l'onorevole dall'onorevole Concia, che come lei sa, insomma, da questo punto di vista, avendo avuto il via libera dall'onorevole Concia, sono tranquillo. L'onorevole Concia, pur di avere il matrimonio fra gay, dice pure che sono froci. Invece dobbiamo rispettare l'omosessualità e non offendere. Beh, ho capito, le ripeto. Guardi, amico mio, che forse è meglio dare qualche diritto in più. Amico mio cristiano riformista, è meglio dare qualche diritto in più e dire qualche parolaccia in più, capito? Sei confuso, stai facendo casino con le parole. Allora, Maurizio Lupi, che è il vicepresidente della Camera, ha detto che Casini, per l'accordo con Vendola, potrebbe essere addirittura espulso dal Partito Popolare Europeo a causa anche di queste questioni che riguardano il matrimonio gay. A me sembra una follia, con tutto quello che ha combinato Berlusconi, ci vorrebbe altro che espulsione dal Partito Popolare Europeo, avrebbero dovuto prenderlo a calci nel sedere. Dunque, io l'amico Lupi che... Non è stato mai contro il matrimonio, tenga presente, poi chi? Io... Berlusconi non è contro il matrimonio cattolico, non è stato mai lui. Beh, come dire, non sarà stato contro il matrimonio cattolico, sì, ma sì, però riguardo a lui, i cattolici vedono il matrimonio, come io sono un cattolico e vedo il matrimonio in una certa maniera, come mi dice Santa Romana Chiesa, però da cristiano riformista, come ne stavo dicendo poco fa, io sono rispettoso di qualsiasi cosa. Ma questo qua è scontato, lei che dovrebbe fare? Mettere la gogna alla gogna? La Costituzione. Se ma no, non è così. È così. È che purtroppo lei si vada a rileggere tutti gli atti della Costituzione. Ma se suo figlio, lei quanti figli ha? Quanti figli ha lei? Da cui partecipa l'onorevole Concia, si batté perché il matrimonio fosse una la famiglia fosse la società naturale fondata sul matrimonio. Vabbè. Cioè, lei pensi, le dico i tempi cosa. Cambiano. Onorevole Mazzocchi, i tempi cambiano. I tempi cambiano, ma i valori rimangono sempre gli stessi. Ma che vuol dire i valori? Lei si batte per la famiglia. Non ci sono più, ma lei si batte per le persone, deve difendere le persone, i diritti delle persone. Ma non a caso, noi vogliamo difendere, io forse non riesco a spiegarmi, vi chiedo scusa. Cioè, noi difendiamo i diritti delle persone come io difendo i diritti degli omosessuali, però no. Continuo a dirle che per noi mi dica la verità, Casini che si mette con Vendola tradisce i valori del cattolicesimo, mi dica qualcosa di forte su questo. Ma guardi, io ritengo anzitutto che Casini, mettendosi con Vendola, perde un terzo dell'elettorato. Vabbè, questa è la sua previsione. Forse Casini, poiché può raggiungere la sedia del Senato e forse pure qualche altra sedia, fa questo, ma al di là di questo, io credo che nello stesso momento in cui Casini fino ad oggi ha enunciato i principi morali e cristiani sul matrimonio, oggi si rimangia tutto, lei che mi deve dire, che è un po' come se la Concia improvvisamente dicesse io sono per il matrimonio cattolico, lei che direbbe? No, ma è a favore del matrimonio cattolico la Concia? No, glielo dico io. Però omosessuali, cioè, le voglio dire questo. Scusi un attimo, ma io voglio dire una cosa, lei quanti figli ha, Mazzocchi? Io due figli, ne avevo uno di tre, ma purtroppo mia moglie non poteva fare il terzo. Questo ci dispiace. Due figli, ma quanti anni hanno? Grandi, uno c'ha 40 anni, un altro c'ha 36 anni. Ma eterosessuali? Sono eterosessuali. Eterosessuali. Allora, se suo figlio ha 40 anni... Non è detto, non lo sappiamo. Beh, no, lo saprà, l'onorevole Mazzocchi, lo saprà se è eterosessuale. Anche se è sposato e c'ha una figlia. Vabbè, questo non vuol dire nulla, come lei sa, non vuol dire... Però, comunque, insomma, adesso sono affari suoi quelli là. Sì. Se a un certo punto... nel passato... Sono omosessuale. Suo figlio viene da lei e dice sono omosessuale. Lei come avrebbe reagito? Nulla, rispettando la sua scelta sessuale. Certo... Mi sarebbe dispiaciuto perché io che sono una persona che piace la famiglia con più figli fatti in maniera naturale, mi sarebbe dispiaciuto, però avrei rispettato la scelta sessuale di mio figlio. Sì, rispettare d'accordo, però una visitina l'avrebbe fatta fare, una bella visitina, una visitina dal medico. Per quale visita? Per quale motivo? Che ne so. No, guardi, lei mi vuole indurre in provocazioni, carucce, anzi io a Zanzara la seguo giornalmente. Perché meno male. La verità, siete simpatici e soprattutto siete molto, direi... d'urto, e questo mi fa piacere. Però mi dica che le fanno schifo gli omosessuali. No, non mi fanno schifo, perché lei mi deve dire una cosa simile? Ma no, magari dentro di sé lo pensa, non lo vuole dire, io cerco di farglielo dire. No, guardi, io forse lei non ci conosciamo, mi auguro che di partecipare a qualche altra vostra trasmissione, io quello che dico lo sento. Sono un cattolico e sono per il matrimonio che fa in chiesa. Però le dico, come cristiano riformista, io dico che due persone che si vogliono bene possono andare benissimo anche al comune e sposarsi al comune. Cioè, al comune si può andare? come no, anche nei municipi oggi ci si può sposare, non solo nei, nei no, ho capito, ma lei lo immagina, se lo immagina un matrimonio con un matrimonio tra due omosessuali al comune? No. Io le ripeto, il matrimonio fra due omosessuali si può fare soltanto modificando se si cambia la Costituzione. Un attimo solo, Mazzocchi, un attimo solo. Prego, le parlo. Vabbè, a me piace questo inno, che ti devo fare, Parenzo? Sarò un masochista, un po' a me piace, che ti devo dire? Amico mio, se ti piace così, io sai che sono molto liberale nei gusti, figuriamoci. Allora, no, non... però oggi c'è una notizia che, una notizia, diciamo, a parte le questioni dello spread, secondo a parte... Ma macchina inchioda appena sento questa musica qui, mette col freno subito. Sì, può darsi. Però oggi la notizia principale, oltre allo spread, eccetera, eccetera, riguarda il calcio, riguarda il calcio. So che tu non te ne intendi, Parenzo, dunque ti lascio un po' da parte, no. Però se vuoi intervenire col tuo solito giustizialismo puoi anche farlo, eh. Oggi, oggi la procura federale ha chiesto 15 mesi di squalifica per Antonio Conte, per Antonio Conte. Migliore la giustizia del calcio che quella, perché, ma non capisci tu, non capisci, è inutile, siccome non capisci. La disciplinare ieri aveva rifiutato un patteggiamento di 3 mesi, c'era stato un accordo tra il procuratore Palazzi e la Juventus, oggi questo accordo è saltato, è stato rifiutato, c'è stata una richiesta per 15 mesi per omessa denuncia. Tu sai come si fa il processo sportivo, Parenzo? Lo sai che c'è l'onere della prova, l'onere della prova invertito rispetto ai processi normali, il processo dura pochissimo, puoi portare tutte le testimonianze, non conta nulla, lo sai come funziona il processo sportivo? Quindi a maggior ragione va rispettata la sentenza, ma a maggior ragione... Ma quale sentenza se non c'è ancora la sentenza? Io voglio sentire come la sta vivendo, come la sta vivendo un grande tifoso della Juventus, Giampiero Mughini. Buonasera, ciao Giampiero. Io sono innanzitutto un cittadino italiano, prima che un tifoso della Juventus, certo. Quindi un cittadino che è attento alle cose della legge, dell'etica, dei tribunali di questo nostro paese, che se fossi qui a ragionare come tifoso sarei una macchietta, di macchiette voi ne spiegate tante, ma io non vorrei aggiungere. No, no, tra l'altro questa cosa del tifoso è importante che la sottolinei, perché io in questi giorni in un articolo sul giornale e in un'intervista che ho rilasciato da poco all'inchiesta ho detto che bisogna guardare a questa vicenda di Conte non con gli occhi del tifoso, perché se uno la guarda con gli occhi del tifoso ci si divide come al solito tra juventini, interisti, milanisti, certo, eccetera eccetera. E allora certo, Giampiero? Ma infatti, ecco, io non sono così convinto come tu hai sostenuto prima per iscritto e adesso mi pare per orale, che nel processo sportivo, perché stiamo parlando di un processo sportivo, di un processo che attiene alla giustizia, sì, sportiva, che contrariamente a quello che pensa Parenzo non è né migliore né più completa né più accurata e così via, come hanno dimostrato fatti recenti in questi ultimi anni, talvolta grotteschi, ebbene non sono sicuro che l'accusa possa dire 15 mesi, 80 mesi, decapitazione in piazza, eccetera, senza addurre un elemento congruo che non sia soltanto la parola del pentito accusante. In queste ore l'associazione Giù le mani dalla Juve, che è un'associazione di tifosi, ma molto accurati, molto, diciamo, sì, documentati, eccetera, ha mandato un comunicato in cui dice: guardate che questa è una balla giornalistica, che l'accusa può andare avanti senza opposizione e senza bisogno di provare. Sì. È vero, dicevano questo perché loro erano contrari dal primo minuto, loro come altri, all'ipotesi del patteggiamento. Sì, sì, sì. Quindi, l'accusa chiede 15 mesi, la decapitazione, eccetera. Adesso però il dibattimento sportivo, per quanto non completo, per quanto non accuratissimo, per quanto in pieno agosto, deve dimostrare che effettivamente l'allenatore del Siena, mi pare che fosse nella primavera del 2011, sì, era perfettamente al corrente, perfettamente connivente, perfettamente, diciamo, complice di una, sì, trattativa non iniziata. Il problema, Giampiero, è che tu hai detto è la procura che deve provare. In realtà, come sai, nel processo sportivo l'onere della prova è invertito, cioè tocca a te smentire quelle cose. Ecco, io non credo che sia perfettamente così. Cioè, allora diciamo, pure perché siccome non sono naturalmente uno specialista, non sono uno specialista né di processi, no, né, certo, di farabuttaggini, né di farabuttaggini, meno che mai di farabuttaggini nello sport, perché lo sport uno lo ama per altri motivi, non ti pare? Mm. Allora io non credo che sia perfettamente così, non credo che per il fatto che c'è un dito accusatore rivolto, sì, al cuore del migliore allenatore italiano, eccetera, per questo stesso l'accusa cammina con le sue gambe sino a conclusione della sentenza. Purtroppo l'impressione è questa, però. Non ne sono sicuro. Luca, hai ancora fiducia? Hai ancora fiducia? Nonostante il 2006, hai ancora fiducia? Beh, sai, vivere significa avere un minimo di fiducia, perché se no tu capisci che dopo aver visto quello che è successo in vari campi, tu dici il 2006, ma possiamo dire il 1940-45, no, sono, sì, successe cose turche nel mondo, si spera che la volta prossima sia un po' meglio. Poi non ho capito francamente il meccanismo. Io, sai, a differenza di altri, penso che nella vita i patteggiamenti si possono fare, mi spiego? Sì, sì. Si possono fare, cioè l'espressione usata da Gigi Buffon era di alta filosofia, meglio due feriti che un morto. E infatti questa era la cosa. E quindi c'era stato un patteggiamento tra gentiluomini, no, in cui Conte pagava un certo prezzo, sì, la Juventus è come se pagava un certo prezzo, e invece la commissione disciplinare della Federazione Italiana Calcio, galantuomini di cui io non conosco né il nome né il, sì, cognome, ma, sì, certamente dei galantuomini, anche se in altre occasioni, in occasione di uno scudetto assegnato alla squadra degli onesti, pur alla luce di manifeste prove che erano onesti non meno degli altri, ma non più degli altri, e poi è venuto fuori che quelli non si ricordavano come mai gliel'avevano assegnato, chi l'aveva assegnato, ma ormai gliel'avevano assegnato e non c'era più niente da fare, cose che ricordo a Parenzo, che non credo sappia bene, per dirgli quanto sia grottesca la giustizia sportiva. Adesso però stiamo a vedere, non ragioniamo da tifoso. Vabbè, ma scusami, io non sto ragionando da tifoso, anche perché io non lo sono della Juventus, come sai, ma il problema è un altro. Il problema è che si può ancora credere in un sistema, cioè mentre tutto il mondo giustamente cerca, per quello che riguarda i business, delle garanzie a questo business, il business milionario del mondo del calcio può essere appeso al fatto che c'è un processo in cui l'onere della prova è invertito e in cui, come dicono tutti e come scrivono tutti, è molto difficile provare la propria innocenza, ma soprattutto il fatto che la devi provare tu, questa innocenza. Ma perché vuoi riscrivere le regole? Ma come no? Ma perché? Che cosa significa? Certo che le voglio riscrivere. Certo che le voglio riscrivere. Sì, sì. Infatti questo voglio fare io. C'è stata la dittatura di un signore che si chiama Stalin che ha imposto la giustizia sportiva. Però io, scusa, Giampiero, qui c'è il presidente della Juventus che oggi ha scritto in un comunicato che la giustizia sportiva è dittatoriale. Oggi il presidente della Juventus ha scritto in un comunicato che la giustizia sportiva italiana è dittatoriale, non ti permette la difesa. L'ha preso nel sottocoda, per forza. Vabbè, dimmi. Dobbiamo, Parenzo a parte, dobbiamo cercare di ragionare, naturalmente. Però, Andrea Agnelli parla da presidente della Juve. Appunto. Da uomo, come tu dici, il cui business nel senso migliore, perché bisogna ringraziare, sì, i presidenti che alimentano una delle più grandi industrie italiane, sì, l'industria del football, e naturalmente quest'uomo vede lesi i suoi interessi, i suoi obiettivi, le sue strategie. Noi abbiamo la migliore squadra italiana, la quale comincia un campionato nelle condizioni d'animo, eccetera, le peggiori del mondo. Come tu dici, nessun business, nessun avvenimento, come se le Olimpiadi che si stessero giocando in questo momento, non sappiamo bene se Federica Pellegrini era stata corrotta dalle sue avversarie, dopata, eccetera. E a questo proposito io saluto questa grandissima atleta, grandissima anche nella sconfitta e nello strafottersene di tutti, che è un'arte che io adoro, ma per tornare al calcio, Giuseppe, che cosa posso dirti? Certo, che... non voglio inveire. Oh, bisogna dire che al posto di Santoro il giovedì sera c'è Emanuele Filiberto, lo sai? È sublime, quello, se mi consenti, merita una puntata speciale. Cioè, merita una puntata speciale, se mi consenti. Come no? Giuseppe, perché a questo punto non è solo questione dello spread. No. È questione di un paese all'apocalisse. Perché non puoi usare un termine inferiore ad apocalisse se la televisione pubblica, lì dove c'era comunque un fuoriclasse dell'informazione, mette un danzatore, seppur nobile. Beh, da solo danzatore, non è solo danzatore, fa un po' di tutto il signore Emanuele Filiberto. Ascolti, va benissimo. Sì, Giuseppe, abbi pietà di me. No, pietà, io ho pietà. Io non parlo mai degli assenti, ma evitiamo qualsiasi ulteriore conflitto. Pechino Express, il nuovo reality del principe Filiberto. Ma scusa, ma perché fate questa ironia? Basta che funzioni, cioè dov'è il problema? Non ma capito. No, ma sono due cose diverse, su, David, sono due cose diverse. Perché siete due mercatisti anche voi, se funziona benissimo, dov'è il problema del danzatore principe? No, ma è perché c'è il posto della danza e c'è il posto dell'informazione, del dibattito, della discussione, dell'approfondimento. Ma se io vado a vedere uno spettacolo di lap dance non è Benedetto Croce, ma quando apro un libro con su scritto pensiero, filosofia, etica, voglio Benedetto Croce. È chiaro, Parenzo? Ma che noia, che noia, che noia! Perché che noia? Scusa, dimmi. Ma perché il servizio pubblico... Cioè tu dici non sta scritto da nessuna parte che alle 20:30, alle 21 del giovedì ci debba essere per forza l'informazione. Ma che palle, allora fate una lettura della critica della ragion pura e facciamo lo 0,5%. Ma Parenzo, l'ho pagato o lo fa gratis? No, lo paghiamo. Non è possibile. Come non è possibile? Non è possibile, è umanamente al di fuori di ogni sospetto. Scusami Mucchini, ma la mia voce, le mie idee hanno un piccolo valore e quindi vengono pagate, certo. Adesso devo stare a sentire, tu ci fai la morale sul fatto che la sera su Rai 2 fanno ballare il principe, ma è viva il principe che balla, io non lo guarderò mai, ma chi guarda, se ne frega? Io non faccio la morale, nessuno mi ha mai offeso come te in questo momento, non faccio la morale mai a nessuno, semplicemente 2 più 2 fa 4, 2 più 2 fa 4, 2 più 2 fa 4, a quell'ora del giovedì devi fare ragionamento, racconto, realtà, spiegare, non delle imbecillità, non un reality, non la fuffa allo stato puro, il niente del terzo millennio, vuoi capire o no? No! Oh dai! Niente, non lo capisce. E lo paghiamo pure per non capire. Lo paghiamo anche per non capire. Adesso non ci puoi fare il pippone etico sul fatto. Ma che etica? La etica non c'entra. Che d'estate bisognerebbe la fare? La parola etica non la devi usare in mia presenza. È una parolaccia che io non ho mai usato in vita mia. Ma grandissimo Giampiero Mucchini. Non c'è bisogno che dici grandissimo. No, perché è vero, per me è immenso. Il grandissimo, anche Giampiero Mucchini, voglio dire, ma perché in prima serata devi rompere le palle agli spettatori con il grande Don Benedetto? Ma non capisco. Ma che c'è? Tra mica Benedetto Croce, era un esempio quello. Era un esempio. Era un paradosso. È un paradosso, però in questo caso inutile, perché il servizio pubblico è sul mercato e quindi non gli si può chiedere di fare la lectio magistralis di Benedetto Croce. In che mondo vive il nostro amico Giampiero? Quella di Santoro non era una lectio magistralis, era una tribuna politica di parte, ma ben fatta, ben congegnata, viva, e tutto questo. Che c'entra Benedetto Croce? Che c'entra l'etica? Che c'entra il pippone? D'estate, caro Giampiero, si balla con il principe e non dovete romperci le balle. Ma l'estate che c'entra? Ma quindi lo vogliono fare nella stagione normale? Che c'entra l'estate? Meglio ancora. ma toglietegli almeno una parte dell'indennità. Ma come l'indennità che gli date per comprare i giornali che lui non legge, toglietegliela, dai. Però io sono convinto di una cosa, tornando alla Juventus, Giampiero, che bisogna andare allo scontro contro la giustizia sportiva, bisogna scontrarsi con la giustizia sportiva, denunciare l'inquisizione. Io non ne posso più dell'inquisizione. Ma questo, come tu sai, ci si difende sempre non fuori dal processo, ma nel processo. E in questo caso non ci si può difendere. Tu ancora credi che ci si possa difendere? Io non ci si può difendere, Giampiero. No, io spero che non sia così, e spero che la prossima volta che chiacchiereremo assieme io non abbia avuto così torto e non sia stato così babbeo. Vabbè, facciamo una promessa: se vediamo che davvero non ci si può difendere in questo processo, vieni qui a spararle sulla giustizia sportiva, però, e non puoi più avere fiducia in questa giustizia sportiva. Ben inteso, però nell'ipotesi che Parenzo si sia preso un mese sabbatico. D'accordo. Senti, ma i matrimoni gay è un tema che ti appassiona, quello dei matrimoni gay? Ma certo, è ovvio. Cioè, mi sembra del tutto evidente che non ci sono cittadini di serie A e non ci sono cittadini di serie B, questo è del tutto evidente. Chi vuole contrarre un rapporto durevole, con tutte le responsabilità e con tutti i diritti reciproci, con un'altra persona a cui è legato da affetto, tenerezza, sesso e tutto il resto, non vedo perché debba essere vietato da Tizio o da Caio. Bravo, insomma, tenendo presente che non siamo nel mondo come veniva raccontato quando ero piccolo, siamo in un mondo che viene raccontato in un modo più leale. Sì. Leggevo l'altra volta di una scuola inglese, di una importante scuola inglese, di una scuola di alta qualità inglese, dove risulterebbe che lì tra uomini e donne, ripeto, una scuola di alta qualità, gli eterosessuali sono il 35%. Con questo io non sto dicendo niente. C'è una realtà che sta tutta attorno a noi, i nostri amici, che non possiamo le persone legare, che conosciamo. Ma che vogliamo scherzare? Matrimonio subito, allora. Bravo. Adesso naturalmente le cose vanno sempre fatte con... Vabbè, unione, matrimonio, qualcosa. Ma Dio santo, ma c'è da discutere. Intanto, scusa, conosci Cristiano Riformisti? No, non tanto. Non tanto. Non leggi i giornali. Non leggi i giornali, non sai chi sono. I movimenti... mi aiuti a ricordare, scusa, ma adesso quando tu me lo ricorderai mi ricorderò. C'è un piccolo movimento. Spero che non lo pagate per questa comparsata. Non leggi i giornali. I piccoli movimenti. Non conosce. A proposito, hai pagato l'acconto della... Ci mancherebbe altro. Adesso, una tragedia, scusa se te lo ricordo. Ci mancherebbe altro, io sono un cittadino italiano e quindi sono responsabile verso... Un colpo al cuore è stato? Un colpo al cuore, sì. No, vabbè, adesso le tasse bisogna pagarle quando ci sono. Intanto qualcuno invoca punturina immediata per David Parenzo alla Zanzara, punturina subito per quello che hai detto. Mi ricordi chi sono questi cristiano riformisti? C'è il signor Mazzocchi, che è il loro leader, che dice che il matrimonio è scritto nella Costituzione, quello tra uomo e donna, e che bisogna modificare la Costituzione. È possibile che io abbia sentito questo signore da voi? È possibile? Sì, qualche istante fa, tra l'altro, altre volte è possibile. Allora io mi ricordo di aver sentito delle cose particolarmente atroci da uno che era venuto da voi, non so se fosse lui. Non so, erano cose veramente particolarmente atroci che offendevano l'intelligenza umana. La Costituzione, in primo luogo, la Costituzione non c'entra proprio nulla, ma niente di niente di niente. Poi la Costituzione, piccolo particolare, è stata scritta nel 1946, piccolo particolare. I tempi cambiano, come dire, no? La carrozza andava benissimo, era una cosa stupenda, c'erano carrozze meravigliose che stanno nei musei, ma nel 1880... Siamo qui, 19:17, 800 24 00 24, prosegue imperterrita la Zanzara. Non ho ancora sentito la voce di Dell'Utri, però perché non me l'avete messa? Perché? Siamo ancora qua, Simo. Siamo ancora quasi e andiamo con i titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Draghi, BCE pronta a intervenire, spread inaccettabili ma non convince i mercati, BTP sotto pressione, affondano le borse. Monti a Madrid, dalla Banca Centrale Europea nessun passo indietro, i mercati non hanno valutato appieno le parole di Draghi, l'Italia non ha bisogno di aiuti. Taranto si ferma per la manifestazione dei lavoratori Ilva, ma un blitz dei Cobas interrompe i comizi sindacali, l'ira della Camusso. 22 anni fa la bomba alla stazione di Bologna, 85 morti, 200 feriti. Dopo due anni di assenza, il governo sul palco, Napolitano, il tempo non lenisce il dolore. I consumi crollano del 2,8%, la Confcommercio parla di una crisi da anni 30 e disegna nere previsioni anche per il 2013. Calcio scommesse, il procuratore federale chiede un anno e tre mesi di squalifica per Antonio Conte, per la Juventus non è giustizia ma dittatura. Il trio femminile di Fioretto si prepara alla sfida finale, l'Italia conquista un argento nel canottaggio maschile e non si placano le polemiche fra gli azzurri del nuoto. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana io soy stanco, come una muchachita, baila col ritmo bueno, non le importa. Si no prendo sueno, no le importa mucho. Si no prendo sueno, no le importa mucho. Si no prendo sueno, pequeña zanzarita. Ancora uno scontro, ancora Comi versus Concia, ieri sera sui matrimoni gay. A in onda, lo Stato non ti impedisce di amare, dice la Comi. Ma che c'entra, cara Comi, cosa c'entra? La mia coppia non ha nessun diritto in questo sì, paese. Allora, però ti nessuno. Faccio un ragionamento, scusami. Lo Stato ti vieta di amare la tua donna? No. Quindi sei felice. Esatto, è quello che dico. Ma perché non la provi tu questa bella sensazione che tu non ti puoi sposare? Perché non la provi tu 5 minuti questa sensazione che... Tranquilla. A un certo punto Facci fa addirittura i complimenti alla Comi per l'altezza del dibattito, perché ha detto che la famiglia è quella tra uomo e donna per fare i figli. Che noia questa argomentazione, che noia! Uno crede uomo e donna, per me è in questo modo. Ma non è per colpevolizzarla, è perché da lì, Concia, è perché da lì discende, cioè dalla definizione di famiglia. Io ho fatto un'introduzione per cercare di parlare di temi di un certo tipo, alla fine siamo la famiglia è uomo donna. I figli che possono avere uomo donna, veramente. Complimenti, veramente per l'altezza del dibattito. Si chiede per favore al signor David Parenzo di intervenire a questa trasmissione. Sono le 19:21 e c'è la zanzara. Dunque, se è all'ascolto della trasmissione via radio in macchina, lo invitiamo, se vuole, se ne ha voglia, alle 19:21 di intervenire in trasmissione. Così. Se vuole, se ne ha piacere, Umbriatore di ieri? Eh sì, va, mettiamolo. Umbriatore di ieri, l'annuncio, il billionaire non chiude. Sentite. Il billionaire non si chiude perché il billionaire ha 200 dipendenti e sicuramente non si chiude un'attività e si mette per la strada 200 persone. Il billionaire c'era Flavio Briatore in questo momento, o delle società che noi che deteniamo la maggioranza, vuol dire che si può anche vendere, no? È appetibile. Ancora Briatore. E beh, su Matteo Renzi, l'incoronazione da parte di Briatore, lo voterei al 100%. Se Renzi vincesse le primarie del Partito Democratico e si candidasse a premier, lo voterebbe 100%. 100%. Visto cosa c'è in giro, 100%. Scusami David, se siamo in diretta alla zanzara, perdonami tanto. Perdonami se siamo in diretta con la radio. Era una zona che non prendeva. Sì, no, ma perdonami, non c'è problema. Non c'è problema, sono le 19:22, non c'è problema, fai quello che ti pare. Giorgio, no, da Modena. Ho visto il telegiornale, ero nella sì, macchina. Ma non c'è problema, Giorgio ci da Modena. Siamo fermati a Marostica nella pausa del telegiornale. Sì, ma forse non hai idea che questa cosa qui a me personalmente e alla gente che ci ascolta non gliene può fregare meno, cioè questo è il punto. Ma mi senti bene ora, no? Sì, sì, sì. Giorgio da Modena, Giorgio. Buon pomeriggio a tutti. Io sono un militante dell'UDC, e non perché sono un militante dell'UDC, ma soprattutto perché sono un cattolico. Sì. la famiglia, o meglio, il matrimonio è tra un uomo e una donna, tra due uomini, tra due donne, non è un matrimonio. E i paesi che l'hanno fatto che cosa sono? Sono criminali? Loro. Sono criminali? No, questo lo dice lei. No, allora lei come considera i paesi dove invece hanno fatto il matrimonio tra omosessuali? Questo è un problema loro. No, ma lo giudichi allora. Mi dica cosa pensa dei paesi che hanno introdotto io questa legislazione. Giudico. Lei non giudica, lei sta semplicemente dicendo di tutto quello che succede in Europa e nel mondo se ne fotte. In Italia invece devono restare solamente i matrimoni eterosessuali. Queste sono cose che dice lei. No, ma io le sto chiedendo. Quando lei vuole sublimare delle scelte. Ma io non sto sublimando nulla. Che non hanno senso, tutto qua. Ma questo non hanno senso secondo lei? Io vorrei capire da lei cosa pensa dei paesi. La maggioranza degli italiani. Ma questo lo dice lei. Se andiamo a referendum non finisce come l'aborto e il divorzio. E lei che cos'ha? La palla di vetro? No, non ho la palla di vetro. Che è Nostradamus? Sono sicuro chi che è? Gli italiani, sono sicuro che gli italiani tengono alla famiglia. Vabbè, vera, ma questo tradizionale. Poi, a parte che il referendum, come lei sa, in Italia è abrogativo, per cui bisognerebbe prima introdurre una legge e poi eventualmente abrogare. Visto che il problema negli accordi politici diventa o la discriminante. Diventa la questione della famiglia tra gay oppure tra lesbiche, mentre invece guardi che l'accordo politico con delle forze di centro-sinistra tradizionali, con una forza moderata come l'UDC, si poggia su cose ben più serie, non su queste robe che voi declamate come importanti. Queste sono delle anomalie, punto. Ma lo vado a dire a quelli del Partito Democratico, a quelli di SEL con cui voi sarete alleati molto probabilmente. E dunque voi siete loro in questa alleanza per far saltare la questione dei matrimoni gay. No, assolutamente. Questa alleanza serve per salvare il paese. E però sui matrimoni gay se ne può fare a meno. Io sono un problema di coscienza, ma in Parlamento io sono certo che andrà in minoranza questa roba qua. Andrà in minoranza, benissimo. Comunque speriamo di no. Comunque lei non è in grado di dirci cosa pensa. Lei non è in grado di dirci cosa pensa dei paesi che invece l'hanno introdotto. I paesi che l'hanno introdotta hanno sbagliato. Hanno sbagliato, benissimo. Punto. Giancarlo da Mantova. Sono paesi molto più civili di noi, comunque. Giancarlo da Mantova, no, io non mi pronuncio sulla civiltà, maggiore o minore civiltà. Giancarlo da Mantova, vabbè, secondo tu introduci la questione della civiltà, io non considero l'Italia un paese incivile, francamente non arrivo a dirlo perché non c'è l'unione tra gli omosessuali, non è un paese incivile. Perché non è un paese incivile. Se mancano alcuni diritti. Ma io non la metto sui diritti. Io non la metto sui diritti. Io voglio il matrimonio tra omosessuali, ma non dico che l'Italia è un paese incivile. Giancarlo da Mantova. E perché no? Giancarlo ti metterà al rogo per questo, ma indubbiamente rispetto ad altri paesi è meno avanzato, diciamo così. Boh, Giancarlo da Mantova. Buonasera a tutti. Volevo solo esprimere un basta contro questi politici. Perché io sono quali politici? Io sono un componente direttivo di Mantova, del Partito Democratico. Tutto questo accanimento sui politici mediatico, email, referendum contro per abrogare l'articolo 2, che alla fine si scopre che i vantaggi i 39 euro contro i 440 del referendum, quindi bisogna vedere bene. È troppo facile, voglio dire, è troppo facile condannare, dire sui politici e fregarsene, mentre noi ce ne occupiamo, almeno noi, sin dal nostro piccolo, in modo completamente gratuito, perché non ci... Io non ho capito però il senso del suo intervento. Lei dice non bisogna dare troppo la croce addosso ai politici, nel senso non bisogna sparare nel mucchio. Esatto. No, vabbè, Giancarlo, qui non lo facciamo mai, per cui non c'è problema. Simona dalla provincia di Como, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Niente, io ho chiamato per quanto riguardava la telefonata all'inizio della trasmissione, quando parlano sempre della Costituzione. Io volevo ricordare quel signore lì che nella Costituzione comunque si parla anche del diritto alla salute e soprattutto del diritto al lavoro, e quello viene calpestato tutti i giorni. Non sarà certo un diritto agli omosessuali che sconvolge la Costituzione. No, lei vuole dire che si possono evocare gli articoli della Costituzione per tante cose. Sì, meno certo per questo, per un diritto. Anche perché la famiglia viene calpestata tutti i giorni, non sarà certo i diritti. Vabbè, guardi, a me quando si comincia a parlare di Costituzione e a evocare articoli della Costituzione che si può stiracchiare come uno vuole, cioè già mi dà fastidio questo argomento, sia che lo si usi per difendere il diritto al lavoro, eccetera, eccetera, sia che lo si usi per dire che non si possono fare i matrimoni gay. Massimo da Vicenza, buonasera. Vercelli, buonasera. Massimo da Vercelli, allora. solo una cosa sull'aberrazione giuridica dell'inversione della prova nel calcio. Non è che non parlo di calcio, le centinaia di migliaia di insegnanti d'Italia che hanno a che fare con i minori di 18 anni sono nella stessa situazione, perché il codice, scusi, non ho capito bene, 2048,2 praticamente si parte dalla presunzione di colpevolezza e poi l'insegnante dovrà dimostrare. Siamo qui 800 24 00 24 in un'intervista a, intervista in una piccola conversazione con Malcolm Pagani del Fatto Quotidiano. Sì. Sabina Began dice, forse accenna, io sono incerto se chiamarlo o no, conferma forse di essere incinta, eccetera eccetera. Ma io per appena fagli uno squillino, ma giusto perché è un'amica della Zanzara. Dopo le 20 forse. Fra poco. Senti bene ora comunque. Sì, sì, fra poco riassumeremo tutto, riassumeremo tutta la vicenda della Began. Andrea da Firenze intanto. Andrea, buonasera. Ma anche bisogna capire chi è il padre soprattutto. Beh, sì, quello è il punto. Sì, Andrea dica. Sì, buonasera Cruciani. Lei in viva voce naturalmente, no? No, assolutamente. Aspetti, sì. L'avevo premuto erroneamente, eccomi. Allora, vabbè, erroneamente. Adesso. Dica. Vabbè, non esistono mai cose erronee, esiste comunque, per distrazione. Va bene. Eh no, è la distrazione. È una persona distratta come me, lei non si concentra sulle cose. Distratto. Ah, senta, volevo dire due cose. La piccola premessa. La prima, vi seguo tutte le sere e mi fate morire dal ridere. Quindi un'ora in macchina di sollievo, dico la verità. Seconda cosa, sono d'accordissimo con Mughini quando ha fatto quella battuta su Parenzo, è meravigliosa, cioè lo pagate oppure viene gratis, perché sennò è veramente sorprendente. Seconda cosa velocissima. Beh, però senta, matrimonio, mi scusi, velocissimo. No, ma io non me lo prendo, non me la prendo. Matrimoni gay sono, io sono favorevole, innanzitutto, devo premettere questo, però tutte le sere di questo argomento. Parliamo anche di altro, dai, che va bene lo stesso. Ma guardi che non è tutte le sere questo argomento, di che parliamo? Su. Spesso. Io spesso vi ascolto. Parliamo di matrimonio omosessuale perché è l'attualità che ci porta a parlare di questo. Sì, ci sono accordi politici su questo, ci sono dichiarazioni di politici. Cosa vuole fare? È così. Ultima cosa invece, forse sarà idiota come cosa, ma probabilmente idiota non è. Io ancora oggi le borse sono andate a picco. Allora io dico, ma è possibile che questi personaggi che tutte le volte aprono bocca, sì, qualunque affermazione facciano, governino a sto modo l'andamento delle borse? Ma potrebbero star zitti. Voglio dire, oggi Draghi ha parlato, 10 minuti prima che parlasse lui, le borse erano positive. 10 minuti dopo, 4% meno. Non credo che ci sia un collegamento diretto. E comunque, chiami o mandi dei messaggi a Focus Economia e le rispondono. Angela da Bolzano, buonasera. Dica. Comunque io sono un po' arrabbiata perché ho avuto una di quelle punturune di Zanzara che non le immagino. Anch'io ieri sera dovrei essere immune così per costituzione, però è così. Come così a lungo. Ah, per quello, mentre era in attesa ha ricevuto una punturina. Molto forte. Sì. Ah, no. Una puntura così, diciamo, metaforica. Dire, io volevo intervenire per due argomenti, cioè rapidissimi. Il primo è quello dei matrimoni gay. Io sono per le unioni civili, non per i matrimoni gay, prima di tutto, perché bisogna dare giustizia alle parole. Vabbè, poi matrimonio vuol dire denaro per le donne, letteralmente, per la madre. Perché il contratto che facevano i romani, gli uomini lo sa come sono, no? Un po', sì, un po'. È vero, è un contratto e ci sono molti soldi in ballo. Si sposavano facendo sto contratto in cui la loro sposa madre, sì, era, come si può dire, assicurata di avere sempre come si può dire, insomma, che poteva fare la stessa vita che faceva prima col marito insieme ai suoi figli. Questa è la protezione della madre, è il matrimonio. Si deve chiamare, non si può chiamare matrimonio un'unione civile, insomma, ecco, perché... Vabbè, però al di là delle cose nominalistiche, al di là dei nomi, Angela, lei è d'accordo o no? Negli altri stati non c'è questo problema, mentre in italiano le persone che hanno studiato, io sono piuttosto anziana, mi ricordo matri e monio, cioè money anche il nome inglese, no? Ho capito, dunque? No, volevo dire che non è un problema il fatto... sì o no alle unioni civili. Il fatto è di chiedere il matrimonio. Vabbè, ma al di là del nome, se due persone si uniscono, se uno lo chiama matrimonio, è uguale a unione, è la stessa cosa, è la stessa cosa. In italiano no. Vabbè, in italiano no. Una puntura grossa è io. Mi faccio una puntura. Poi volevo dire un'altra cosa. Io ho notato che le punture che fate, quella per esempio che avete fatto a quel terrorista nero, no, non abbiamo fatto nessuna puntura, molto, ma molto bene. No, non abbiamo fatto una puntura in quel caso. Guarda, non l'ha capita la domanda che gli facevate, era una bella puntura, però quello si è dimostrato che non aveva questa capacità di capire che il dolore è fatto di tante sfaccettature. Questo è una cosa che ha insegnato molto. Certo, grazie Angela. Giuseppe da Chieti, buonasera. Era dottor Cruciani. Sì, vada. Allora, io sono molto preoccupato per lei. Sa perché? Perché? Ultimamente, lei è molto stanco, floscio, senza verve, senza grinta, senza autorevolezza. Dove è finito il Cruciani di sempre che detta legge? Che detta legge? Non si fa mettere sotto gli ascoltatori. Ma chi è? Buffalo Bill? Ma c'è la punturina qui scatta. Ma come detta legge? Scatta la punturina fra poco. Ma se lotta come un leone, signor Cruciani. Scatta la punturina. Invece. Scatta la punturina adesso. Scatta la punturina. Deve riposare un po' e poi si deve togliere da torno la schiappa che fa il suo aiutante. Perché lei è un talento. E un talento vicino a una schiappa, cioè, cosa ne esce? Ma perché lei si butta così giù? Lei si vada a rivedere. Ma perché lei si butta così giù? Perché si descrive così male lei? Perché? Allora, perché si descrive così male? Vado a leggere il curricula che le ha mandato il suo aiutante. Doveva avere tre punti, no? Uno che doveva essere bolscevico, uno che doveva costare 2000 euro al mese e uno che doveva essere più importante, una schiappa. Lei quando vide il suo curriculum dice c'era scritto sono bolscevico, mi accontento di 1500 euro al mese e sono una schiappa al quadrato, invece l'ha fregato perché è una schiappa al cubo. Giuseppe, sai perché mi sei simpatico, Giuseppe? Sì. Perché gli dobbiamo fare una perché purtroppo è uno stato di ebbrezza. Se lo tolga di torno! Sono preoccupato per lei, Cruciani. Uno stato di ebbrezza, sei in uno stato di ebbrezza. Fermati, siediti su una panchina. Lui è stato raccomandato dall'altro bolscevico che è stato cacciato a calci nel sedere. Ma Telese, chi è l'altro bolscevico? Telese. Ah, bolscevico. Va bene, Pierluigi da Milano, va bene. Che devo dire, la punturina arriverà, caro Giuseppe, arriverà la punturina pure a Chieti. Pierluigi, c'è o non c'è? Ci sono. Vada. Volevo fare un commento sui gusti sessuali. Sì. Io sono a favore dei matrimoni gay. Sì. Sono amico di gay, tutto quanto, però i gusti sono gusti. Non c'è dubbio. Perfetto, per cui se vedo un uomo e una donna che si baciano in mezzo alla strada ha un certo tipo di reazione. Che reazione ha? Normale. La mia reazione non è normale, è la mia reazione. E qual è la sua reazione? È una reazione di eccitazione sessuale. Cioè, lei si eccita a vedere un uomo e una donna che si baciano in mezzo alla strada? Ma sì, penso che sia una cosa abbastanza... Insomma, normale. Diciamo il 50% delle persone forse si eccitano. Ma io se vedo due che si baciano in mezzo alla strada, non necessariamente, non credo che il 50% delle persone si eccitino, scusi. Vabbè, invece se lo fanno due... E se lo fanno due uomini? Se lo fanno due uomini? Se vedo una donna e una donna che si baciano, posso avere un'eccitazione sessuale. Se vedo un uomo che si bacia, non mi dà un po' fastidio. Mi dà un po' fastidio, vabbè, ma ognuno... Ognuno. Per avere una reazione ad un gusto. Se io mangio una bistecca mi piace, se mangio dei funghi non mi piacciono, mi fanno schifo i funghi, ma non per questo devo essere colpevolizzato perché mi fanno schifo i funghi. No, ma non c'è dubbio, ma mica la colpevolizzo. Se lei guarda due gay che si baciano, le fa schifo e pazienza, che cosa vuole che le dica? Ma non è un problema. Sentendo alcune considerazioni di Parenzo, sembra che sia un problema. Se a lei fa schifo vedere due uomini che si baciano, due donne che si baciano, è un problema suo. Però è lei che ha il problema, è lei che ha un problema, non gli altri. Secondo me lei ha un problema se le fa schifo vedere per strada due uomini che si baciano. Però questo è una mia considerazione. No, sì, ma infatti ma sono considerazioni, possono essere altrettanto valide le mie considerazioni nei confronti di chi dice non mi fa schifo, anzi magari provo un'eccitazione sessuale. Ma no, ma lasci perdere, perché è fissato con l'eccitazione? Lei è fissato con l'eccitazione? No, ma non è questione... allora, non è importante eccitarsi, non è importante eccitarsi. No, non è importante eccitarsi, però di fronte a determinate... di visioni, se io vedo una cosa ho una reazione. Vabbè. Una cosa può piacere, una cosa può non piacere. Vedo una cosa bella, mi piace, vedo una cosa brutta, sempre parere personale, non mi piace. Va bene. Ho capito perfettamente. Silvio forever sarà, Silvio realtà, Silvio per sempre. Silvio fiducia ci dà. Beh, insomma, il grande Silvio interrogativo è: Sabina Began è incinta di Silvio Berlusconi, sì o no? Began alla Zanzara qualche giorno fa. Il suo sogno è ancora in corso? Quale? Quello con Berlusconi? Di fare un bambino, di avere un figlio. Se lei mi regalasse un bambino sarei la donna più felice del mondo. Ancora? No. Ma non è che magari è già incinta? No. Dica la verità. No. Eh? Non è incinta, no. Però il dubbio ce l'ha. Potrei essere incinta. Eh? C'ha il dubbio perché ha quest'occhio che luccica. È l'amore. Oggi è particolarmente luminosa, bella, sì, bella come le donne quando sono incinta. Dica la verità, potrebbe esserlo. Ma ragazzi, ma sì, potrebbe. Cioè, il dubbio c'è. O no? Sì. Eh? Perché no? E poi il nome, pochi secondi. Il nome. Cioè, siete d'accordo sul nome? Io ci avrei un nome, sì. Lui lo sa. Lui lo sa, Berlusconi lo sa. Sì, gli ho detto. È contento. E ti ha detto? Contento. Diventa realtà. Beh, c'è un grande nome ai microfoni della Zanzara, caro Parenzo, eh? Chi c'è? Pippo Baudo, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Caro Pippo, come stai? Non sono incinto. No, e tu no. Ma sarebbe clamoroso, dimmi la verità. Sai che il famosissimo film che fu fatto. Quale? È quello di Ferreri, che appunto sull'omicidio faceva Marcello Mastroianni. No, ma sarebbe clamoroso se Berlusconi avesse messo incinta la signora Began. Di nuovo papà, sarebbe clamoroso. No, non ci credo. Ma nemmeno io, non ci crediamo. Non ci. Senti, invece del ritorno in campo di Berlusconi, che ne pensi? Ma io non penso che lo farà. Ah, è una minaccia, e dice posso anche tornare. Vorrebbe che tutta l'Italia stasse in piedi e dicesse torna, come la vecchia canzone, torna vincitore. Vorrebbe appunto questa mozione d'affetto di tutta l'Italia, che difficilmente si muoverà in questo senso. Ormai non è più come un tempo. Appunto. No, chi lo vota ormai? No, beh, qualcosina ancora raccatta. No, ancora il suo seguito ce l'ha, però sai, ripresentarsi da solo, anche se rifà l'accoppiamento con la Lega, che è un matrimonio stranissimo dopo quello che c'è stato negli ultimi tempi, non penso che riscuota un tale consenso. Ma per l'Italia che sarebbe un mezzo incubo il ritorno di Berlusconi, diciamo la verità, una sorta di incubo. No, è minestra riscaldata, si dice nel mio paese. Sì, minestra riscaldata. Un film in bianco e nero. Ma torni pure tu però, non è che sei, per carità, non è che ti voglio dire... Ma io che... non torno però... Sei sempre rimasto, a governare il paese. No, quello no. Io torno con un piccolo programma. Su Rai 3, Su Rai 3, comincia il 3 settembre, è un programma al quale credo molto, penso che sia anche abbastanza nuovo. Hai girato l'Italia, che hai fatto? Stai continuando a girare già adesso? Sì, giro l'Italia. Giro l'Italia, e si chiama Il Viaggio. Sì. Incominciamo con la Toscana, poi facciamo la Romagna, poi facciamo... Ma che succede nel viaggio? Però c'è un accordo, mi sembra, no? Se non raggiungi la media di rete, arrivederci e grazie. No, è un contratto un po' pazzo che ho fatto, che farà stupire i miei colleghi, e soprattutto penso che sia un esempio da porre agli altri che firmeranno contratti. E com'è questo accordo? Nel senso, l'accordo è che se il mio programma non è in linea con la media di rete... del periodo in cui vado in onda, e questo sì, alla decima puntata, che sono 25 puntate, la RAI unilateralmente può sciogliere il contratto e può rimandarmi a casa. Senza un euro in più dopo quelle puntate? No, assolutamente, non è che vado un tanto a spettatore, no. No, dico senza un euro, nel senso che dopo... cioè, non becchi una lira? Non becchi un euro dopo? No, niente, vado a casa. E vabbè, è una novità assoluta, caro Pippo. Sì, è un contratto che nessuno ha mai firmato. E tanto ormai diciamo la verità, a questa età te lo puoi pure permettere. Ma a questa età poi sai, nei miei confronti c'era un momento di stasi, mi sentivo quasi un esiliato, sai, quando il telefono squilla c'è sempre un motivo. Ma com'è che c'è ancora questa... No, io mi stupisco, com'è che c'è ancora sta voglia? Cioè, è una cosa pazzesca, cioè, uno potrebbe dire Pippo Baudo ha fatto la storia della televisione, eccetera, eccetera. Anni alla fine? Poi basta, 54 anni di televisione, una cosa pazzesca. Sì, 54, sì. 54, invece tu non ti arrendi ancora. C'è ma Gaspari guarda, che è una cosa che stupisce molti, ma questa è una passionaccia, quando ti entra nelle vene, è veramente una droga. Quando poi ti senti bene fisicamente, anche mentalmente, sì, non accetti l'idea di andare di essere messo da parte, non l'accetti proprio psicologicamente, proprio. Ma è un difetto, è un po' un difetto, non ti fa, sì, sì, forse è un difetto, forse è un difetto. Cioè, come ti dai, sentiresti senza l'adrenalina? Ti sentiresti morto, diciamo la verità. Ma io sarei un infelice, ecco. Siccome sono vecchio. Non voglio essere infelice. Non voglio essere infelice perché gli ultimi anni della propria vita dovrebbero essere quelli più sereni, più spensierati. Se diventano invece un incubo, poi che fa? No. Quindi dici, pagatemi così non sono infelice. Non farmi pensare in questo modo. No, per carità, io non ti voglio fare pensare così. Però uno potrebbe dire spazio ai giovani, no? I giovani sono sempre al centro. Infatti. Per carità, questo discorso dei giovani sta diventando anche un attimo di ripetitivo. Cioè tutti gli spazi dei giovani, innanzitutto bisogna che questi giovani siano bravi, o uno è bravo oppure se... Ecco, e numero due, ormai la televisione è in mano a gente molto giovane, più giovane di me, molto più giovane di me. Cioè non è che se improvvisamente arriva uno che ha 76 anni, sì, la media si alza in maniera che sono tutti centenari. Cioè comunque non è che togli il posto a qualcuno, questo vuoi dire? No, assolutamente, assolutissimamente. Ma com'è che Gaspari ce l'ha tanto con te? Dice Baudo stia a casa. Ah, conduttore... Maurizio è veramente un mio nemico storico. Come mai? Da cosa nasce questa? No, ma io non ho avuto mai un alterco motivato ideologicamente. Certo, ideologicamente non la penso assolutamente come lui, mai. Però non dare questa sia una ragione per attaccarmi ogni più sospinto. C'era con me, Baudo deve andare a casa. Meno male che ancora non esiste il confino perché è stato eliminato, insomma lei c'era Ventotene oppure Roma o Ustica. A lui piacerebbe da vecchio camerata. Ma non stagire mandarmi a Ustica nella stessa cella di Pertini. Gli piacerebbe tanto. Vabbè, tu pure non ci sei andato leggero con i cosiddetti berlusconiani della Rai, li hai chiamati miserabili scherani, eccetera, eccetera. No, perché hai ragione, però insomma, sai, il servilismo nella Rai non è solo a destra il servilismo. No, ma io non è che, per carità, io parlo anche un po' troppo certe volte. Ma fai bene, devi sempre dire quello che pensi, altro che ormai se non dici tu quello che pensi, chi lo deve puoi dire? Puoi farlo, scusa, dopo 54 anni di TV. Non è che parli troppo, dici quello che pensi. Per esempio, no, non riesco a frenarmi, ecco, qualche amico mio intimo mi dice, ma certe volte potresti anche mozzicarti il labbro e non dire quello che pensi, però a una certa età si liberano dei freni inibitori, opportunistici, e senti proprio il bisogno fisico quasi di dire quello che pensi. Scusa un attimo, ma perché non ti candidi invece, Pippo? No, me l'hanno offerto. Chi? Mi hanno offerto di candidarmi alla regione Sicilia. Quello Prodi, no? Prodi anche adesso. Adesso? Sì, anche adesso, sì. Come adesso, scusa? Adesso? Dici? Ma anche Prodi... per la prossima elezione, questa di ottobre. E chi te l'ha chiesto? Il PD. Come allora me lo chiese Romano Prodi, però io sono negato, ho mai fatto politica attiva. Beh, vinceresti a mani basse in Sicilia, diciamo la verità. No, non è vero come pensi tu, perché la Sicilia vive un momento drammatico. Però Pippo Baudo candidato... Ma poi Pippo Baudo, una volta che viene eletto, deve governare. Ma lo sapresti fare, diciamo la verità? No. Questo qui, perché per la prima volta dichiaro la mia incompetenza specifica. Cioè, non saprei governare, non vorrei essere governato da altri sotto banco, vorrei fare che non sono incapace della gestione delle gestioni politiche, solo so che ci vogliono compromessi, per carità di Dio. In Sicilia ci vorrebbe altro, ci vorrebbe una bella dittatura morbida, bisognerebbe fare da la Sicilia ha bisogno di una grande trasformazione proprio culturale. A che servono le elezioni, Pippo? Le elezioni servono solo a perpetuare le clientele, bisogna che arrivi uno e metta a posto i conti. No, purtroppo vedi, perché la Sicilia, adesso ti parlo bene dei miei siciliani, cioè la Sicilia ha una classe dirigente professionale che è di altissimo livello, ma non si sporca le mani facendo politica. E praticamente facendo così ha delegato a questi politologi di professione di governare, perché io ho parlato con professori di università, con chirurghi, con notai. Ma che figure, quelli fanno il loro mestiere. E quelli dicono no, noi per carità. Facendo così però hanno favorito la crescita di una... Sai, quando ho letto questa cosa che è avvenuta giorni fa, per cui c'era una mozione nella quale si volevano escludere gli indagati e gli arrestati da frequentare l'assemblea, hanno detto andiamo a scrutinio segreto e non è passata, e quindi chi è stato in galera indagato siede tranquillamente a Palazzo d'Orléans come se non avesse fatto niente. Ho detto ma che vuoi fare? Non sono riusciti nemmeno ad abbassare il numero dei consiglieri regionali da 90 a 70, figuriamoci un po'. Ma questo pare che si farà all'italiana in maniera alternata. Ma tu chi ci vedresti come governatore? Uno che potrebbe risolvere le cose, chi potrebbe essere? Ma io nomi non ne ho, sinceramente. Tutti parlano molto bene del sindaco di Gela. Crocetta. Ne parlano molto bene, dicono che sia una persona molto intelligente e che a Gela, in una città molto difficile, ha operato con molto coraggio. Non so se ce la farà. Beh, però tu fai il tifo per lui, diciamo la verità. Per farsi candidare, insomma. Fai un po' il tifo per lui. Alfano, governatore della Sicilia, come lo vedresti, il signor Alfano? Ma Alfano è... Allora, Alfano... No, penso che Alfano ormai è nei piani alti della politica, perché lui è praticamente il segretario del partito. Ma Berlusconi l'ha fatto fuori ormai. No, ma secondo me lui sa che Berlusconi alla fine non si presenterà. Infatti ieri o oggi ha detto se si presenta Berlusconi non si fanno le primarie. Ma se Berlusconi invece non si presenta, dobbiamo fare primarie, e lì le primarie del PDL saranno lancinanti, perché lì c'è il gruppo che fa riferimento ancora alla vecchia alleanza nazionale, con quelli di centro, lì la situazione gente che non ti piace, gente che non ti piace molto, diciamo la verità. Che cosa? Il PDL, non sei. Non mi lega niente, non vedo nemmeno quale sia l'ideologia del PDL, cioè non capisco. Vabbè, non mi adeguo. Senti una cosa, ma hai sentito questa cosa che al posto di Santoro vogliono mettere il principe Emanuele Filiberto in prima serata su Rai 2 al posto del programma di Santoro? Purtroppo insomma i Savoia mi renderebbero ben altro trattamento, insomma, con tutto il perdonismo di questo mondo, insomma. Emanuele Filiberto, insomma, io l'ho visto che ha voluto fare anche dei mestieri più poveri su Sky. Era una cosa abbastanza ridicola, insomma. Siamo riusciti a mandarlo anche a Sanremo a cantare Italia assieme a Pupo, insomma. Veramente, quando io penso a suo nonno Vittorio Emanuele, a quello che ha fatto, insomma, siamo molto generosi noi italiani, soprattutto dimentichiamo facilmente. Però, il fatto che sia in Italia è già uno scandalo per te? Come? Il fatto che sia in Italia già... No, il fatto che sia in Italia, cosa vuoi? È un re, non è nemmeno un re, insomma è un... Al posto di Santoro, sai che sia al posto di Santoro? Prima serata sul re... Al posto di Santoro c'è Santoro. No, per fare un altro programma, mica fare un programma di informazione, però ammettono... Vabbè, ma non arriveranno a tanto, perché... Come no? Prima serata... Prima serata, Emanuele Filiberto, per fare un programma che non so come si chiama, un reality. No, mi sembra Avanti Savoia. Un bel titolo. È una degna parabola, no? Tu non ci vuoi credere, però è così. È roba da non crederci. Però è un programma che non vedrei, ecco. Eh beh, su questo non c'è dubbio. Meglio che sia in un reality che piuttosto. Senti, che tu una volta tu hai invocato Marchionne, no? Cioè, per la, ci vorrebbe un Marchionne. È arrivato un manager, però è arrivato, alla RAI. Sono arrivati due manager. Sì, due manager. È arrivata la presidente. Qualche speranza ce l'hai? La quale, no, qualche speranza. Questa è gente che deve innanzitutto fare un'analisi dell'azienda, dello stato economico dell'azienda prima, e poi pensare ovviamente alla riforma editoriale, cioè all'impostazione editoriale. Il mio augurio, sai qual è? Che la RAI abbia una cifra propria da servizio pubblico, che non faccia però programmi noiosi, perché io non sono uno di quelli che dicono quanto è bella la BBC. La BBC è noiosissima. Sì. Se noi facciamo la BBC in Italia non la vede nessuno. Sì, giusto. Cioè, però ovviamente prima devono guardare i conti, devono aggiustarli, perché purtroppo gli introiti pubblicitari sono limitati. Sì. Insomma, hanno dei problemi economici e penso che il loro primo problema sarà questo. Dopo penseranno ovviamente a imbastire un piano editoriale. Intanto ci sarà sempre Porta a Porta, te lo dico subito, metti l'anima in pace, Porta a Porta ci sarà sempre all'inizio. Sì, sì, e purtroppo quella è una cosa che si ripete. È una tassa, perché diciamo. Purtroppo? No, io dico purtroppo. Purtroppo. Con tutto il significato che ha questa parola. Diamo qualche sostanza a questo significato. Purtroppo è una tassa che si ripete. Perché non sa fare televisione, Vespa. Perché bisogna ripetere? Perché bisogna avere la tassa Porta a Porta? Perché ormai è una specie di abitudine. Insomma, lui è sempre lì, insomma. Una volta poi fai il libro l'anno, intervista il Cavaliere in esclusiva, sì. Poi fa Porta a Porta, poi fa le prime serate, poi fa si concede un mese soltanto, e poi subito riparte un'altra volta. Questo lo sappiamo. Via col vento e ritorna. E che ci possiamo fare? Si trattiene. Dove lo vedresti bene, il signor Vespa? Io vorrei che cambiasse programma, almeno che provasse a fare un programma diverso. Non voglio ostracismi nei confronti di nessuno. Pippo Baudo che torna a settembre con un nuovo programma su Rai 3, Giro d'Italia, si chiama in realtà Il Viaggio. Giro d'Italia è naturalmente il core business del programma, il centro del programma. Certo. Però volevo chiedere a Baudo una cosa, ci racconta questa cosa di Sharon Stone bene, perché non vorremmo aver capito male. Lei ha perso una grande occasione. Quando è accaduto? Ho ricevuto dei gesti di simpatia da parte della signora. Ma la scena qual era? La scena era la camera dell'albergo del Royal. Sì. Dove sono stato ricevuto per provare appunto cosa fare per la serata di domani a Sanremo. Sì. Ma lei è stata molto molto carina, insomma, poi mi diceva sempre, mi ha preso gli occhiali, mi ha detto look me. Ma lei com'era? Sul letto? Lei era sdraiata, poi si è messa al centro, cioè mezzo letto. Tu hai detto solo con gli slip, però. Com'è? Cioè, solo con gli slip? Solo con gli slip. Allora sono abituato, che avendo fatto anche le indossatrici, non hanno questo problema di coprire anche la parte superiore. C'hai il seno fuori, insomma, no? Look me, diceva Look. Dice Look me, e tu che hai fatto? Look me, guarda. Ho fatto quello che l'ho guardata, e basta. E non hai fatto nulla poi? No, per carità, domani poi venuta le prove. È stata molto gentile, molto gentile. Sì. Mi ha preso un'altra volta gli occhiali, me li ha un'altra volta puliti e poi mi ha detto look, well. E io l'ho guardata ancora, ebbene, basta. E poi la sera ha fatto una performance eccezionale, abbiamo anche ballato insieme. Ma ti sei mangiato le mani? Un po', dimmi la verità. No, io non ho pensato minimamente all'occasione, a quel fiore che non colsi, non ci ho pensato assolutamente. Poi io quando faccio questo tipo di manifestazioni sono preso, insomma, non mi lascio influenzare. Però le sue intenzioni erano chiare, mi sembra, no? No, non avevo nessuna intenzione, anche perché... No, lei, non le tue, le sue. Magari un gesto di simpatia. Mezza nuda sul letto, che dice look me, è uno che pensa. È la prima cosa che uno pensa, e dice, vabbè, vieni qui e magari facciamo un po' di... Se poi fai il cretino e ti butti, che lui dice, ma che cazzo hai capito? Vabbè, ma Pippo, scusami, signor Pippo! La figura del pericolo. Ma nella vita si rischia. Nella vita si rischia. Però, signor Pippo, scusi. Sì, si rischia. Un po' ma lì le condizioni c'erano tutte, signor Pippo. Le condizioni c'erano tutte. C'era una mezza nuda nel letto, sì, si toglie gli occhiali. Le oggettive, insomma, scenografiche c'erano. Scenografiche. Ma vai a pensare all'intenzione vera interna. Stavamo là, caro Pippo. Magari invece era un trucco. Potrei anche ripensare, vado a sto cretino italiano, come si butta o no. Uno per prudenza dice, vabbè, meglio non fare. Per prudenza, per certo. E Grillo? Ma era mezza nuda, quale prudenza? Vabbè, Grillo, che ne pensi di Grillo invece? Ma Grillo l'ho visto recentemente perché Gino Paoli ha organizzato uno spettacolo a favore dei illuminati della società. Sì, sì. Ci siamo incontrati dopo tanto tempo. Sì. Che gli hai detto? No, Gino era preoccupato che lui ne approfittasse per fare un comizio politico. E dice, pensaci tu a Beppe, io ho parlato con Beppe, Beppe stasera facciamo le buffonerie che facevamo quando stavamo insieme, e lui, devo dire, ha capito benissimo, gli ha fatto una serata magnifica, mi si è messo a pianoforte a cantare, è stato molto spiritoso. Ma come lo vedi in politica? Lo vedo in politica molto preoccupato, cioè lui è a capo di un partito nascente, di un movimento nascente molto forte, che secondo me avrà un grande consenso. Ma lo voteresti tu? No, io ho detto il motivo per cui non lo voterei, perché penso che lui non sia poi il vero capo del partito, sia portavoce. E questo fatto glielo fanno notare anche i suoi, perché appena interviene in maniera diciamo brusca, autorevole nei confronti dei singoli soggetti, gli dicono no, guarda che tu non, questo qui non lo puoi fare. Beh, insomma, se non è lui il capo, chi è il capo? No, ma non è il capo, capisci? Lui è il rappresentante estetico del partito, quello che chiama le folle. Ma insomma, a te piace questa sua aggressività? A te piace questa sua suo andare contro tutti? È un movimento, messo per ripetere, come hanno scritto, populista, come si dice, che noi italiani abbiamo avuto. Io c'ho l'età che ho e mi ricordo, anche se ero un bambino, Guglielmo Giannini che venne dal mio paese. Con la caramella. Tu dici che passerà pure Grillo, passerà. No, passerà, cioè no, io penso che ci sia un grande problema quando dall'astrattezza si deve passare alla concretezza. Questo sì, cioè. Ma ha sbagliato, infatti, no? Infatti il sindaco di Parma, è chiaro, una volta che si è insediato ha avuto difficoltà a fare la giunta, adesso i singoli problemi gli si pongono e non è facile governare. Sì. No, non c'è dubbio. Ma Giannino lo conosci? Giannino, l'hai mai visto? Pure lui vuole fare un nuovo partito. 11.000 persone hanno aderito a questo appello. Sì. Non ti piace? È che è morto Marianini, perché sarebbe stata una bella coppia con Marianini. Un grande uomo di spettacolo potrebbe essere pure Giannino. Sì, Giannino è uno che riempirebbe le folle. Sì? Se le piazze, sì, perché è divertente quando parla, è fantasioso. Sì. Così. Poi, sai, trasformarsi... Dovresti chiamarlo, dovresti chiamarlo in qualche tuo programma. Saresti una bella coppia. Una bella coppia. L'ho chiamato, è venuto, è stato sempre molto spiritoso, Sì. È un liberale, lui si ritiene un liberale, anzi liberista. Lo voteresti o no? No. Tu sei di sinistra, diciamo la verità. No, ma è un voto, cioè è un esperimento che mi preoccuperebbe, insomma, no, veramente. Addirittura. Che ci mettiamo con le ghette, bastone, poi questi qua devono capire che c'è un paese da governare, insomma. Ma come le ghette e i bastoni? Ma perché? Sì, perché lui è uno che è old fashion. Sì, questo non c'è dubbio. Tu oggi per chi voteresti? Pippo Baudo, per chi voterebbe? Per il PD. Per il PD. Ma ti ho detto, sì, io mi ho manifestato qual è la mia tendenza verso il riformismo di sinistra, quello orientamento di sempre, peraltro. Sì. Ma insomma, chi è che ti ha chiamato per la Regione Sicilia? Cioè, chi è che ha alzato il telefono e ha detto Pippo? Non si può dire. Il milita del partito all'interno è un mio amico carissimo. Non si può dire, non si può rivelare. Però te l'hanno chiesto. Ha capito la bontà delle mie osservazioni, insomma, del mio comportamento, insomma, però. Intanto ancora la Minetti non si dimette, signora Minetti. Minetti, ho saputo che Oliver Stone fa un film su Bunga Bunga e lavora come interprete. Forse. E quindi diventerà una diva internazionale. Forse. Intanto è sempre consigliere regionale di Lombardia. Intanto piglia il suo suo stipendiuccio ogni mese. E intanto sta lì che incassa ogni mese, pare che non faccia nemmeno tutte queste cose, pare che non faccia grandissima attività da consigliere regionale. Ma insomma, non penso che ci siano leggi e interventi degni di nota, però è una bella presenza. Ma com'è che Berlusconi non riesce a farla dimettere, sta ragazza? Ma sai, questa, scusatemi, questa dice, ormai ho conquistato questo posto da igienista dentale, sono diventata consigliere regionale, e ho raggiunto questo obiettivo e adesso mi dimetto, ma mi devono cacciare via a pedate. Oppure dammi un sacco di soldi, questo. Appunto, capisco la difficoltà a dire di no, ecco. Certo. Caro Pippo, il problema è che mi hanno fatto dire di sì prima, quello è il problema. Quello, il problema è stato candidarla. Scusami. Candidarla, uno scandalo quello. Una lista bloccata pure, Se no chi la votava? Qui veniva eletta comunque, insomma. Certo. Vabbè, comunque Berlusconi si sarebbe buttato a pesce su Sharon Stone, Sì, però no. Sì, come no. Immagina di Berlusconi con quello. Ma disteso del letto. Disteso del letto. Sharon Stone, Berlusconi non si sarebbe buttato. A pesce così, però, a pesce. Ma poi io non credo che questa cosa, la bega, non ci credo. No, la bega no, però che Berlusconi, insomma, voglio dire, no. Io guarda, Pippo, ti voglio veramente bene perché per me sei un'icona. Ma come diavolo hai fatto a controllare te stesso in quel momento, guarda, io non mi do pace. Stasera non mi do pace, che non ti sei buttato a capofitto urlando fantastico con un tuo programma. Così dovevi buttarti proprio. Sì, sì, pure Sanremo. Miracolo! Dovevi buttarti dicendo perché no. Sanremo è Sanremo! Boom! Sulla Sharon Stone! Appunto, c'era anche la sigla. Anche la colonna sonora a portata di mano. Magari quella si spostava e lui crollava sul letto da solo. Ma bravo, una bella testata. Come nei film. Caro Pippo, con le mutande, look me. Ti saluto, grazie. Vi ringrazio molto, vi auguro buon lavoro. Anche a te, mi raccomando. Un abbraccio fortissimo. Viva, abbasso i giovani, viva i vecchi. Come si può dire, no? Abbasso. Ma no, viva i vecchi. No, viva i vecchi. No, i vecchi. Devono starci anche loro. Devono starci anche loro. Chiamaci, non mi attaccate per l'età. Dillo chiaramente, non mi attaccate per l'età. No, per l'età non mi attaccate. Se no mi sento morto. Se non lavoro mi sento morto. Su. Ancora penso. Ancora scrivo, ancora cammino, ancora. Insomma, non sono da ricovero. Siamo qui, 800 24 00 24. Andiamo a Vicenza. Maurizio, buonasera signor Maurizio. Buonasera dottor Cucciari. Vada. Volevo regalare una citazione a lei e al signor Parenzo. I generali romani, quando tornavano vittoriosi dalle loro campagne di guerra, dicevano ai loro servi di ricordargli, di ripetergli ogni tanto una frase che era memento mori, che vuol dire ricordati che devi morire per temperare il loro, per temperare il loro delirio di onnipotenza. Sì, ricordati che devi morire, l'abbiamo mandata a lungo qua la zanzara, ricordati che devi morire. Sì, mo me lo segna. E allora? Sì, esatto. E ecco, io sono un ascoltatore vostro, che ha rarefatto l'ascolto della vostra trasmissione, mentre voi nel frattempo avete aumentato gli ascolti, siete molto... Probabile, ma non è questo il punto. Sì, ecco, sa anche come funzionano i meccanismi elettorali, che a volte si usano cose molto facili per guadagnare voti, poi dietro i voti o dietro i numeri dell'Auditel ci sono dei numeri, poi con i numeri si comanda, però... Vabbè, ma qual è il punto, scusi? Non sempre tutto questo corrisponde a qualità. Siccome Radio 24... Chi decide la qualità, scusi? Chi è che decide che cos'è qualità e cos'è non è qualità? Cioè, chi decide cos'è una cosa quando è qualitativamente buona oppure no? Chi lo decide? Secondo voi i numeri, però... No, non ho detto questo, non ho detto questo, Roberto, non ho detto che decidono i numeri. Dia lei una risposta. Ma io dico che, per quello che è il mio modesto giudizio, secondo me la qualità è scesa in questi anni, però ha guadagnato ascolti, quindi... Vabbè, allora... Allora, non so, io vi do questa mia riflessione, se volete farne buon uso fatene, se no... Ma io non ho capito ancora la riflessione, lei ha detto che gli ascolti non sono tutto, bisogna vedere la qualità. Sì, Benissimo, Maurizio. Ma guardi che è una cosa che ho ben presente, non si preoccupi. Sì, va bene, ecco, quindi buon lavoro. Roberto dalla provincia di Oristano, non la dice tutta però, non la dice fino in fondo, Maurizio, non la dice fino in fondo. Ma Roberto. Buonasera. Dica. Posso fare due interventi, uno sull'argomento di distrazione di massa e un altro sull'argomento, penso, un po' più serio? Roberto, faccia quello che vuole, basta che sia breve e efficace. Vabbè, l'argomento di distrazione di massa, che il matrimonio gay è un non problema, perché non è vero che in tutta Europa ci sono i matrimoni, c'è il riconoscimento delle coppie. Anche negli altri stati fanno distinzione, molti stati, tra matrimonio e unione. Sì. Tutti dicono che sono d'accordo a riconoscere i diritti delle coppie a parole. Che non vogliono sposarsi, vogliono stare assieme ed è giusto che abbiano dei diritti. No, secondo me vanno riconosciute solamente le unioni tra omosessuali, non tra eterosessuali. Per gli eterosessuali c'è il matrimonio. Che stanno assieme senza essere sposati. C'è il matrimonio. Se non si vogliono sposare ci sono comunque. Ci sono. Ma c'è il matrimonio se. Ma non è obbligatorio il matrimonio, è la libera appunto, scelta. Appunto, è esattamente così. Allora, la libera scelta è che per gli uomini e le donne. Perfetto, appunto, o c'è il matrimonio o c'è la convivenza. O c'è il matrimonio o c'è la convivenza. Non ci può essere un matrimonio di serie B. Il matrimonio è libero per tutti. Sì, ho capito. Qualsiasi gay maschio, qualsiasi lesbica donna può sposarsi con una persona dell'altro sesso. Nessuno gli chiede la sessualità. Certo, assolutamente. Allora, perché si parla di mancanza di diritti? È un qualcosa che si vuole accaparrare a tutti i costi. No, scusi Roberto, ma di che sta parlando? Qualcuno che non li ha. Ma lei non si può sposare, lei Roberto non si può sposare con Michele. Esatto, ma è giusto. Allora, perché per lei è giusto, per me no. Cosa vuole che le dica? Per lei Michele, se è gay, può sposarsi con Roberta che è lesbica. Ma perché nessuno, neanche il prete, gli chiede qual è la... Ho capito, cioè deve fare finta? Un carattere distintivo personale. Ma se Roberto si vuole sposare con Michele, perché si deve sposare con Michela? Mi spieghi? Perché il matrimonio... Ma perché vuole sposare? Se il matrimonio è tra uomo e donna, perché vuole sposare? Ma appunto di questo si discute, di introdurre un matrimonio tra uomo e uomo e tra donna e donna. Ma dico, ti fai l'unione, civile. Ma l'unione civile è una specie di matrimonio, è la stessa persona che facciamo l'unione civile, l'unione civile tra uomo e uomo e tra donna e donna però. Certo, ma il problema è che l'unione civile tutti dicono che sono disposti a concederlo. Molti parlano semplicemente di concedere diritti, non di fare l'unione. Cioè non vogliono la formalizzazione, vogliono che nel codice civile, e forse nemmeno nel codice civile, vengano introdotti dei cambiamenti per fare in modo che si possa fare testamento, si possa lasciare, eccetera, che eccetera, eccetera. Ma non la formalizzazione del rapporto. Potrebbero sposarsi anche in quattro. Una coppia di gay e una coppia di lesbiche potrebbero sposarsi e avere anche... Vabbè, dai, Roberto, non dica stupidaggini, su. Non dica cose assurde, che ci si può sposare facendo finta di sposarsi, facendo i figli. Non è così. Ma come non è così? Sarebbe una finzione. Il bambino poi non avrebbe nessun trauma, perché il bambino non distingue la sessualità. Il bambino vedrebbe un padre uomo e una mamma donna. Eccoci, 800 24 00 24. Fabrizio da Roma, buonasera. Buonasera. Io Dica. Volevo dare un mio contributo sui matrimoni gay. Prendo spunto da una notizia che ho letto, insomma, da Amazon, insomma, in America. Un attimo. Pensati? Sì. Ah beh. Sì, fantastico. Sabina? Ciao. Sì. Siamo Giuseppe e David. Ciao. Ciao. Ma che ci hai combinato? Ciao tesoro. Che ci hai combinato? Ciao. Che ci hai combinato? Non ti possiamo lasciare solo un attimo? Amore. Ma che è successo? Ti chiucciolo. Che c'è il mio secondo amore lì con te? Sì, sì, è qua. Sai da quando l'hai baciato non può più vivere? Love my life. Vero. No, ma ogni volta me lo ricordo. Non mi sono più lavato le labbra. A parte che l'hanno cazziato in 3000 persone, fidanzate, vabbè, sì. eccetera. Vabbè, lasciamo perdere. Ma è stato un bacio di d'affetto. Ma lo so, ma lui, sai. Lo so, ma poi è partita la lingua greca. Ma che lingua? Non è vero, dillo. No, ma quale lingua? Sabina, diglielo. Sì. Allora, però, scusami Sabina, ma com'è possibile che noi ti lasciamo per un attimo e tu rispondi al telefono ad altri confermando quello che non può... Cioè, facciamo chiarezza una volta per tutte. Una volta per tutte, sì. Guarda, cioè, con noi lo puoi fare. Ma io non ho capito, perché sono in diretta io. Eh beh, certo che sei. Eh beh, certo. Ma tu mi chiami senza avvisarmi. Ma no, ma, tanto ma noi quando chiami... pensavo che l'avresti capito. Ma la nostra vita è in diretta. La nostra vita è sempre in diretta, è tutta in diretta. No, però tu sei brava, l'hai capito, ma te l'avrei detto. Allora, possiamo dire una cosa definitiva su questa love cosa qua? Love of my life? Smettila questo love of my life, su. Pronto? Sei incinta o no? No, ma questa cosa non mi fate queste domande, io non diciamo così. Non posso parlare di questa cosa. Sabi. Diciamo così, porti dentro il tuo grembo il frutto del peccato dell'amor proibito? Sì, te lo porti. Ma perché allora lasci pensare? Il padre Verdini. No, perché va, no, va bene, non ne vuoi parlare. Ho capito. Ma vedrai che no, io la voglio rispettare. Non ne vuole parlare, va bene. Bravo. Vedi, Giuseppe. No, sì. Non ne vuole parlare. Però potrebbe. Ecco. Non ne vuole parlare, va bene, non ne vuole parlare. Però voglio dire, allora se non ne vuoi parlare, però proprio facciamo morire questa notizia, cioè non sono incinta. Questo si può dire? No. Diciamo che io non voglio proprio parlare. Non ne vuoi parlare? Non smentisce. Non ne vuoi parlare? Io siccome le voglio bene, allora tenderei a non parlare di questa cosa. Parenzo, che dici? No, sono d'accordo con te. Diciamo soltanto questo. Il corredo è pronto? No, ma dai, su, vabbè. Non fare lo stupido, dai, no, sennò vabbè. Poi mi porti... No, io le faccio soltanto tantissimi auguri. Ma perché? Ma non dici no, sul che nulla. Trovi la felicità che no, con qualsiasi cosa accada, dico davvero questo. Però scusami Sabina, però a qualcuno avrai detto chi vuoi che sia il padre? Insomma, cioè io sono un uomo. No, d'accordo, e questo d'accordo. A qualcuno hai risposto? Come potevi, cioè, non so, ma che ti devo dire? Che cosa vuoi dire? Che ti voglio dire? No. Senti che voce. Ma no, ma sono un po' preoccupato per questa cosa, no, sinceramente. No, dispiaciuto no. No, no, sentirlo un po' giù. No, dispiaciuto no, dispiaciuto non sono, perché ognuno ha la sua vita. Poi perché mica... dice che sta un po' giù? Chi è che sta giù? Io ti sento un po' giù, un po' moscia, come se... No, avessi... ma tesoro, non hai capito? Io sono stanca, cioè, adesso quando sei incinta capita i primi mesi. No, è vero. Io mi sento un po' stanca. Allora facciamo così, ma hai un po' di nausea? Come? Hai un po' di nausea ora? Ma siete tremendi. Anche ma solo a sentire Giuseppe, così, ti viene un po' di nausea. Mi chiamate così con l'anonimo, non mi avvertite. No, l'anonimo è il coso. L'anonimo è il è perché il centralino è anonimo. Sono i servizi. Ah, ecco. No, il centralino è anonimo. Che no, mica... Pronto? È andato da Putin, quindi. No, ma però dobbiamo dirimere una questione tra di noi, tanto non ci ascolta nessuno. No, 2 milioni di persone. Sei incinta oppure no? Allora, facciamo così, che io veramente di questa cosa non mi piacerebbe parlare, cioè sì. Non ho fatto in modo che si parlasse, quindi Hanno fatto in modo, l'hai detta da noi una volta, hai fatto pensare una cosa, sì, poi certo, ti hanno... ho detto sì, certo, però adesso non è che non voglio dire niente, cioè... Oddio, cioè, no, ma poi voi siete miei amici, quindi io per forza adesso sto parlando con voi al telefono. No, ma... No, ma infatti non si può usare questo metodo, cioè è sbagliato. È maschio o femmina? No, ma dai, no, smettila. No, vabbè, smettila. Vabbè. Se fai così la metti in no, dire, ma io scherzo. Io le voglio veramente bene. Le faccio una carezza e che sia felice. Sì, dico solo che sia felice. Tanta felicità. Grazie. Questo l'accetto perché io so davvero che voi mi volete bene. No, questo è vero, ma questo moltissimo. È vero. Questo è vero, anzi, ti chiediamo anche... Fisico. No, è vero, io però devo dire una cosa, sei okay. Stato tu a insistere come al solito, però io sì? ti chiediamo scusa per questa, incursione. Ma no, no noi lo facciamo sempre, con sì. Sabina non l'abbiamo mai fatto. No, infatti. È vero, non infatti sono rimasta adesso sorpresa, però, perché normalmente mi avvertite. Sì, è vero, però volevo... Volevamo, soprattutto Parenzo ha insistito, guarda, chiamala, che poi no, come Parenzo? tanto ci saremmo. Però voi sapete benissimo, quando io voglio parlare, voglio raccontare delle cose, io vengo da voi, sì, senza problemi. Va bene, allora ti abbraccio. Ciao. Anche io voi. A presto. Ciao. E io sono stremato, capito? Tiziano dalla provincia di Brescia. Bene. Buonasera. complimenti per la trasmissione. Dica. Volevo spezzare una lancia in favore della ricandidatura di Berlusconi, che poi è la gente che lo sceglierà qualora decidesse e avesse di nuovo il coraggio di ricandidarsi. Faccio una brevissima riflessione sull'operato dello statista, perché ritengo che sia stato un grandissimo statista, e ha in fin dei conti governato 8 anni con quasi tutti contro, dovendo mediare in una maniera pazzesca sui suoi intendimenti, e credo che non abbia assolutamente potuto fare quello che avrebbe voluto fare per il bene del paese. Poverino. Io ritengo che il nostro paese abbia assolutamente bisogno di cambiamento, e lui, nonostante tutto, sia ancora molto giovane in termini di ideali. Questo volevo dire. Giovane in termini di ideali. Davvero che possa ancora fare qualcosa per il nostro paese, e se la senta soprattutto, perché non dimentichi che in fin dei conti è sempre un uomo. E mi è piaciuto molto il passo indietro fatto da Alfano, che rispecchia le qualità umane della persona, perché le valori quali la riconoscenza, l'abnegazione per... Se le piace così, se lei vede così la politica, se lei la vede così... Magari uno di quelli che non vede, è stato deluso dal fatto che Berlusconi non abbia potuto fare quello che avrebbe voluto fare per il bene di tutti, non solo di una parte. Cari amici, siete su Radio PDL. Grazie Tiziano, di questa chiamata, di questo comizio, di questo elogio. Io devo dire una cosa: oggi il vicepresidente della Camera, Maurizio Lupi, che è una persona che stimo, ha detto che addirittura Casini potrebbe essere espulso dal Partito Popolare Europeo per questa alleanza con Vendola. Io voglio essere molto duro su questo, caro amico Lupi. Come si può pensare una cosa di questo tipo? Non me ne frega niente, alla gente non frega nulla del Partito Popolare Europeo, tutte queste formule, queste denominazioni, queste sigle che per la gente comune non servono assolutamente a niente. Ma al di là di questo, con tutto quello che è successo nella vicenda Berlusconi, adesso Casini dovrebbe essere mandato via dal Partito Popolare Europeo. Ma di che cosa stiamo parlando? Bravo. Di cosa parliamo? Bravo. Fabrizio stava parlando, Fabrizio da Roma. Mai parole più sagge non furono pronunziate. Allora, Maurizio, Fabrizio. Eccomi. Allora, no, dicevo io, i matrimoni omosessuali, no? Praticamente io ho preso appunto dalla notizia che c'è stata in America, insomma, Amazon ha dato 2 milioni di euro per i matrimoni gay. Per Amazon, il sito Amazon. Sì, molti diciamo anche personaggi famosi, imprenditori, milionari americani hanno dato soldi per la vicenda. Io non capisco perché si debbano dare dei soldi, comunque insomma questa è una cosa che francamente non capisco. No, ma perché uno dà i soldi per che cosa? Cioè a un'associazione per che cosa? Non ho capito. Anche Bill Gates l'ha fatto per meglio che li danno ai bambini poveri dell'Africa. Cioè no, io questo francamente è una cosa che non capisco. Mecenatismo. No, ma mecenatismo a chi? Cioè a chi? Ai poveri gay? A chi lo danno? Alle associazioni gay? Sì, per carità. Ma scusami, uno è lì, ad esempio, ho preso la tessera di Nessuno Tocchi Caino, cioè sono libero di finanziare un'associazione, un altro è libero di finanziare l'associazione. No, ho capito, però il problema è che Nessuno Tocchi Caino promuove azioni contro la pena di morte in tutto il mondo. Se uno vuole finanziare il ritorno dei puffi, ad esempio. No, ma ho capito, ognuno può fare quello che vuole. Certo, io non capisco perché che bisogno c'è di finanziare delle associazioni pro gay. Ma come? Perché magari possono promuovere attività con quei soldi. Ma no, ma certo, questo lo capisco, però non è che... Cioè, perché c'è uno scopo meno nobile di un no, altro. No, ma non è che siamo in presenza. Comunque, lasciamo perdere. No, ma non anche l'associazione dei coppi. Vabbè, Fabrizio, allora? Parla tanto di naturalità dell'omosessualità. E invece? Dice tanto che in natura c'è l'omosessualità, ci sono animali. Beh, certo, assolutamente, sì. Ma in natura c'è anche il partner che mangia l'altro partner dopo aver fatto un altro tratto sessuale. In natura c'è anche la pedofilia, in natura c'è l'incesto. Ecco la cazzata delle 20 Ecco la cazzata. No, non è una cazzata. Allora qui si parla da questo punto si parte. In natura c'è anche lei, ad esempio. È in natura. Va bene che è in natura. Ma non è solo per questo, Fabrizio, non è che si vuole promuovere tutto quello che è in natura, se è questo il suo ragionamento. Non c'entra nulla. Ormai gli amori e le coppie omosessuali sono intorno a noi. Sono intorno a noi, intorno a lei. Io continuo a ripeterlo. Lei abita in un palazzo a Roma? Io ho amici omosessuali a Roma, ho amici omosessuali. Nel suo palazzo sarà pieno di froci, pieno di omosessuali. E allora basta, riconosciamo le unioni e non ne parliamo più per i prossimi 100 anni. No, non è così, perché la natura è la società, andata avanti. L'unione tra uomo e donna, non si può dare un diritto a chi. Ma guardi che l'uomo e la donna insieme non li tocca nessuno, non li tocca nessuno. Margaret da Bolzano, per concludere, Margaret. Buonasera, finalmente. Sì, però ascolto da sempre, sì. Dottor Cociani. Mi dica. Però mi sembra che ultimamente il livello della sua trasmissione sta un attimino calato. No, è molto calato. Siamo ai minimi livelli, ma devo chiudere. Ci sentiamo domani per l'ultima puntata, domani. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Sei ancora a casa, Simo? Radio 24. La passione si sente.